No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. Siccome tutti dicono che quella roba di ieri alla scuola di Siracusa è stata una porcheria da regime, una roba da balilla, una roba da fascistoide, i bambini che intonano una canzone, che applaudono al Presidente del Consiglio, addirittura un professore che scrive di suo pugno una canzone di inno al Presidente del Consiglio, Giuliano Ferrara invece deve dire che no, non è vero, e dunque invita tutti a fare un inno al Presidente del Consiglio, un inno a Renzi. Ecco il suo, aveva in testa un cappello col giornale il direttore del Foglio, Giulianone Ferrara. Renzi è un piccolo porcelli, gli voglia tanto ben, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Se in Repubblica dice ahimè, io dico i là. Siamo le guardie del lupetto, to, to, to, to, to. Siamo tre piccoli porcellini. Caro Parenzo, è amico nostro. Se non fosse amico nostro, saremmo qui a chiamare l'ambulanza, saremmo sì, qui a chiamare l'ambulanzone. No, ma chi sarebbe il lupetto? Questo però non lo so. Ah, dai, non hai analizzato non lo so, non lo so. Parole. A me però, al di là di Giuliano Ferrara, che comunque resta sul pezzo. Sì, un po' sì, resta sul pezzo con un colpo di genio. Con un colpo di genio. As usual. Emiliano, sindaco di Bari, renziano, che in altri casi avrebbe tuonato contro questa roba che abbiamo visto ieri, e poi non ne parliamo più, e poi non ne parliamo più, a meno che non ci siano testimonianze clamorose qui alla Zanzara. Emiliano, sindaco di Bari, anche a me da sindaco hanno cantato tante canzoncine, ma quando mai? A me di sta roba proprio non me ne frega niente, cioè io faccio il sindaco. Di canzoncine me ne hanno cantate molte. Anche a lei hanno cantato certo, Batti le mani e salta. È una cosa che capita molto frequentemente. Nella teoria il Presidente del Consiglio, che non c'ha niente da fare, organizza un viaggio in Sicilia, chiede alla scuola, con la collaborazione di qualche insegnante, di organizzare una canzoncina e fa sta scemenza. Senza lui è un cuore di metallo senza. Beh, siamo al top qui, ho visto, Marco, so già di che cosa lei vuole parlare. Marco, so già tutto. Se n'è andato via, pannellone nostro. Pannellone nostro. Avrò rivisto quel video almeno 40 volte nelle ultime ore. Fermatelo, amici radicali, amici, popolo della radio, fermate Pannella, non lo fate andare in giro. Tranne che alla Zanzara, dove non verrà più probabilmente. Era con Cecchi Paone invitata a una trasmissione di una televisione. Dice a un certo punto: voglio essere cittadino dello Stato Vaticano. Dai, su. Un genio. Il Papa, io sceglierei oggi di essere cittadino dell'altro Stato che sta sul nostro territorio, quello Vaticano. Detto da un radicale, è pazzesco. Perché Cesare, cioè lo Stato quell'altro, è quello delle catacombe, e questo Papa è quello di San Pietro e degli altri che stavano nelle catacombe, perché colpevoli solo di non essere graditi al potere. Voglio essere, com'è che fa? Voglio essere Cioè lui dice che io vorrei, sì, non è un paradiso, vorrei essere cittadino dello Stato Vaticano anziché dello Stato di Cesare. Ma sei anticlericale? Sei anticlericale? Dai, No, perché è molto più clericale lo Stato fascista di Renzi che ha cacciato Emma. Aspetta un attimo, senti questa cosa. Siamo come uno Stato nazista, fascista, stalinista. Dai, su, basta. Fermatelo! No, Giacinto. Senatore a vita, Giacinto. Io vi richiamo agli obblighi che sono quelli di uscire dalla flagranza criminale dello Stato, ma da 20 anni, quindi siamo al livello dello Stato nazista, dello Stato fascista e dello Stato staliniano, e viviamo senza saperlo. Io per esempio vi ringrazio di questa occasione questa sera. Poi a un certo punto c'è chi paura e cerca di fermarlo, sentite. Marco, scusa un attimo. Non avete la possibilità, con l'amnistia le parti lese, le parti civile devono comunque andare nel momento con la prescrizione, in cui si stabilisce, no, certo, se quell'imputato, Marco, deve, Marco, essere riconosciuto. Lo stavamo dicendo come tu ipotizzavi proprio con l'avvocato delle camere penali, quindi è chiaro che in questa situazione la rieducazione è impossibile. Criminale. Aspetta un secondo, Marco. Non lo dico con odio, lo dico con amore. Lo so. Con amore della verità. Io per amore mio ti prego di darmi un attimo modo di andare avanti. Era strabordante, vabbè, dai. Lo sai quanto altro male ti farà. Oh, cari grillini, sentite cosa pensa di voi Mario Adinolfi, il mitico, mitologico piddino, renziano, piddino, insomma, adesso mi dispiace pure catalogarlo così, piddino, renziano, grande giocatore di poker, 160 nullità, gli onorevoli grillini. Perché se il Movimento 5 Stelle diventa un partitino con le correnti, in cui uno è il senatore Pizzangralla, l'altro è il senatore chi te se fila, è chiaro che non vai da nessuna parte, insomma, devi organizzare qualcosa per cui questi 160, queste 160 nullità, diciamoci la verità, perché questo sono, vengano organizzate politicamente in una logica. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Berlusconi, dopo aver detto che la mafia dei giudici deciderà se andrà in galera o meno, a riattacca col comunismo. Beh, oggi siamo al top, oggi dalla presentazione. Dei giudici, un po', sì, la mafia dei giudici, vabbè, comunque, non mi sembra una cosa lontana. Non è nuovo, certo. Non esatto, è nuovo, non mi sembra una cosa particolarmente. Cancro, una volta era tumore della democrazia. Vabbè, no, senti questa cosa sul comunismo, perché oggi è stata la presentazione di un libro che parlava di queste robe qui, Il comunismo. E quando lei ha detto, padre, che il comunismo è talmente esagerato nelle sue manifestazioni che non è solo un'ideologia, è una malattia, è una follia, ecco, io credo di poter essere d'accordo su queste sue affermazioni. Del mio riso, mi brucia quel tuo sorriso che mi fa pensare a casa, mi brucia quel tuo sorriso. La Mussolini gli piacerebbe a Renzi essere come mio nonno. Pensare a casa. Icone Balilla di Renzi, Grillo ha detto i figli della lupa, hanno tutti evocato praticamente suo nonno sostanzialmente. Che ne dice? Ma gli piacerebbe, cara. No, io penso che lui dovrebbe fare meno visite perché è inutile che. Ma come, ha vinto anche il film La Grande Bellezza? Tra un frigorifero, però io non mi ammalo. Direttore? Come stai? Come stai? Oh? Stavo bene. Ma che hai fatto? Ma dov'è? Sono in Albania. Come in Albania? Sei in esilio in Albania? No, che c'entra? Esilio è stato militare. Ma no, sono a Roma. Roma, no. Carissimo, quanto tempo? E che fai? Carissimo, quanto tempo? Avete fatto tanti di casini in questo periodo. Ma che abbiamo fatto? Mi hanno detto che abbiamo creato casini. Che casini abbiamo fatto? Ma sì, dai. Perché? Me la siete presa con Padocchiano lì, come si chi? Chiama? Chi? No, come si chiama quello? Boh, ma che ne so. Barca. Barca, ma che c'entri tu con Barca? Mio nonno si chiamava Emilio Barca. Io a un certo punto mi sono sentito anche. Ma che sei parente di Barca tu? Sì. Non di questo Barca, un Barca di Barcellona che si chiamava Emilio Barca, che era mio nonno, proprio mio nonno. Vabbè, ma tu non c'entri niente con sta storia, dai, non c'entri nulla con questa storia. Lo sa, sai, con l'aria che tira finisco anch'io. Tritato. Ma no, no, ma che finisci? Ho mezza Italia a farabutti, meno male che eravate spariti per un po'. Ma perché? Ma che succede? Ma che ti abbiamo fatto? Scusa. Beh, mi avete ignorato per tanto tempo. Ma noi non ti ignoriamo mai, sei tu che ignori noi, al contrario. Sì, dai, figurati, dici qualcosa sul matrimonio di Berlusconi, dai. Ecco, lo sapevo. Dai, il matrimonio di Berlusconi, quando sa, si sposa secondo te? E dove? Come? Quando si sposa secondo te? No, io qua ci sono solo ipotesi come le fate voi. No, tu sai, giornale. No, no, l'ho letto sui giornali. Ma che hai letto sui giornali, dai? Come letto sui giornali? Sui giornali. Vabbè, ma secondo te si sposa o no? Dimmi la verità. No, Saldini, è una tua opinione, eh? Si sposa o non si sposa Berlusconi con la Pascale? Al di là di Ischia, Napoli, fuori grotta. Ma quelli sono giochi così. Giochi. Vabbè, quelli sono giochi che facciamo anche noi. Effetti turistici. Andiamo, andiamo alla ciccia. Si sposa o no, secondo te? Si sposa. Per come stanno le cose si sposa. Si sposa. Ah. Oh, benissimo. Già abbiamo una certezza, ce l'abbiamo. Terzo matrimonio. Però scusa, ma chi glielo fa fare di fare il terzo matrimonio? Soldi, no, eredità. No, cioè, ripeto, sai, il problema è che Francesca Pascale è entrata nella vita di Berlusconi nel momento in cui Berlusconi stava attraversando, ripeto, il momento, uno dei momenti più difficili. Era pieno di femmine, era pieno di donne, era un casino. No, ma quali pieni di donne? Anche questa è una favola. Vabbè, una favola, dai, su, una favola, direttore, dai, su, una favola. Era pieno di gente intorno, donne. Ma va benissimo, figura, io sono invidiosissimo, il punto non è questo. Tutti siamo invidiosi di Berlusconi pieno di donne, no? Anche tu sei invidioso un po', no? Ma che ci faccio? Io non posso essere invidioso di lui pieno di donne, sarò invidioso di lui, non lo so, per altre cose, ma non certamente. Vabbè, comunque, lui stavi dicendo, la Pascale si è inserita nella vita di Berlusconi quando Berlusconi aveva dei problemi, dunque lui in qualche modo è riconoscente, no? Beh, nel momento della non avere paura di parlare, tanto non succede niente. Non ho paura di parlare, figura di cosa appunto, cosa che ti frega, ma c'hai 80, ma c'hai 80, no. 82 anni, c'hai, ma che te frega? Ovviamente, Berlusconi lo conosco benissimo, anche Francesca. Lo so, lo sappiamo. Sì. È per questo che te lo chiediamo, si è inserito nella vita di Berlusconi in un momento complicato, dunque un po' è nei suoi confronti. La salvatrice è stata in un certo senso, o no? Come la salvatrice di Berlusconi. È stata la persona che gli è stata vicino nel momento difficile, quando io spegni la luce e poi c'hai il buio attorno. E invece c'hai una accanto. C'è una persona accanto come lei che è stata capace ed è. E dunque possiamo dire che Berlusconi è riconoscente nei suoi confronti? Ma Berlusconi, dai, per la prima volta dopo tanti anni, io ho visto lui una persona diversa dal punto di vista dei sentimenti. Grazie alla Pascale, no? Grazie alla Pascale. Come? Grazie alla Pascale. La Pascale è stata la persona giusta che l'ho anche liberato di certa. Di persone sbagliate, anche femmine sbagliate, donne sbagliate, diciamo la verità. Anche donne sbagliate. Anche donne sbagliate. Un attimo solo che c'è il traffico. Non vi abbandonerò mai. Sei ancora in casa, Simo? Le zanzare di casa mia. Abbiamo con noi il direttore dei direttori, Emilio Fede, in collegamento da Roma. Sempre qua. Che succede? Eccolo. Oh, ma che sei moscio oggi? Che succede? No, come sono moscio oggi? Stavo ascoltando tutte le notizie che stavate dando, non sono affatto moscio. Senti, eravamo direttore, un problema importante, che è un problema di sentimenti. Certo. Si sposeranno o non si sposeranno, questo io non lo so. Vabbè, hai detto che tu secondo sarai testimone, forse. Ecco, ti piacerebbe fare il testimone? Tu che conosci tutte. Assolutamente sì, voi per i rapporti che ho di amicizia con lui, voi i rapporti di amicizia che ho con lei, anche se devo dire. Cioè, saresti perfetto per fare il testimone, perché conosci sia lui che lei, anzi, hai inaugurato praticamente, sei stato il trade union, no? Bene, che sono stato il trade union, ma dico soltanto che sono amico, ero amico, resto amico di Francesca. Sì. Ritengo onestamente che Francesca accanto a lui è servita. Sì. Trasformare, cioè a rasserenare un po' Berlusconi, un po' l'atmosfera, e anche poi ripeto il problema durante il quale Berlusconi ha assediato, aggredito come ancora adesso, certo, per carità, giustizia, non aveva poi tante persone alle quali poter... Ma è un, po poter avere... è un po' iena lei? No, Francesco, tutt'altro. Tutt'altro? No, no, come la definiresti? Né colomba, né falco, né coccodrillo. Come la definiresti? Come la definirei? Una... Come un animale? A quale animale la accosteresti? Beh, vuol dire, accostare... Francesco, no, ma un animale, animale è troppo facile. Cioè? Vuol dire, avendo Dudu, cosa dici? Vabbè, che c'è? Una cagnetta, dici tu, una cagnetta. No, ma nel senso una... Ma no, ma non in senso, per carità, assolutamente. Lei, guarda, la verità è che lei rimane dietro le quinte. Certo, se ne parla tanto perché vanno sempre a sfuguliare o comunque ad inventarsi. Io ma non che so. Ad inventarsi, dai, ma a inventarsi la storia che già sono pronto. Comunque che deve andare a Capri piuttosto che a Ischia. Vabbè, comunque entro l'anno si sposta, secondo te? Entro l'anno si sposa, facciamo come uno che gioca all'otto, fa bingo. Entro vabbè, tu sei un giocatore, se dovessi puntare qualcosa, punteresti 200 euro sul matrimonio entro l'anno? Tu che sei un giocatore. Entro l'anno... Sì. Giocheresti 200 euro. Tenendo presente che comunque la prima e la seconda moglie di Berlusconi sono sempre rimaste dietro le quinte. Perché sia beh, lei no, lei non rimane dietro le quinte. Ora rimane dietro le quinte. Mica tanto, ho già fatto un'intervista a Repubblica. ma quali dietro le quinte? Dietro le quinte. Dai, su. Ma ha fatto un'intervista a Repubblica, strano. Vabbè, però guarda, lei è molto... attenta, lei ha una consigliera diciamo ufficio stampa così che certamente la sorregge bene. Emilio, senti una cosa, ma se per caso Berlusconi dovesse vendere il Milan, lui ha smentito, no? Adesso tu direi non lo venderà mai. Non è che se mettiamo Berlusconi non è più proprietario del Milan, torni a fare il tifo per la Juve? Sì, sicuro. Io devo dire che il mio amore, io gli amori non l'ho mai traditi. E voglio dire, cioè la Juve non l'hai mai tradita? Beh, vuol dire, sono stato juventino, sono stato uno dei fondatori di Ura Juventus. Appunto. Poi per lungo periodo ho fatto l'inviato in Africa, non mi frega più niente del però caso. Voglio dire una cosa, Emilio, se Berlusconi non dovesse essere più padrone del Milan, a questo punto Ubi Maior, no? Torni al 100% tifoso della Juve. Ma no, torno ad occuparmi della mia professione, torno ad occuparmi, a continuare a fare il giornalista. Vabbè. Non è più una... Vabbè, ma l'hai detto prima. Senti, ma tu lo daresti il Nobel a Putin? Nobel per la pace? Potrebbe essere un modo... di una forma di pressione in questo momento con la Crimea, con tutto quello che sta succedendo. Beh, per spingerlo a restituire la pace in quel territorio. Ma non mi addirittura. Il Nobel per la pace a Putin, so che dico una cosa che magari non sarà scomoda, però va bene. Io glielo darei, e perché no? Io glielo darei. Dai, su. Anche perché potrebbe contribuire a renderlo, possiamo dire, più buono. Più buono, sì. Curioso, no, ho capito. La teoria di Emilio Fede è questa. Se uno dà il premio Nobel per la pace a Putin, potrebbe... Lo addolcisce in qualche modo. No, ma questo non è male però, Emilio. Che dici? Ma scusami... Dico, effettivamente poi in questo momento lo metto in una condizione o di non accettarlo, oppure di dire, va bene, io sono un uomo di pace e in questo momento, in quest'angolo del mondo e il resto del mondo vive drammaticamente la storia dell'Ucraina e allora, allora lo spingerebbe Emilio Fede inviato in Ucraina sarebbe straordinario. Beh, di nuovo tornare quello mi piacerebbe. Tornare a fare l'inviato potrebbe farlo per la zanzara in Ucraina con la zanzara manda Fede in Ucraina. Se voi tocca cacciare i soldi qua inviato dalla zanzara in Ucraina io ci vado. Ma tocca cacciare i soldi, puoi andare a spese tue però con quella con l'assegnino di Mediaset, no? come puoi andare a spese tue sì, forse dovrei andare a spese. Ma non importa, ci vado anche a spese mie. Ma chi è il nuovo Emilio Fede di Renzi? Perché qui tutti quanti dicono, secondo te il nuovo Emilio Fede di Renzi chi è? Mentana? Ma guarda, Mentana è uno che diciamo così ha condiviso la linea di Renzi già prima. Ma secondo te il nuovo Emilio Fede di Renzi chi può essere? Mentana? Guarda, se c'è qualcuno che può esserlo, può essere solo Mentana. Io altri, Emilio Fede o Enrico Mentana in giro per l'Italia ne vedo pochi. Ne vedi pochi. Però io sono più simpatico. Ah, di Fede, di Mentana, di Mentana. No, Mentana è simpatico ed è mio amico. Però io nel modo di comunicare, ragazzi, non lo dite a nessuno, ma uno che comunica come me non è facile da trovare. No, assolutamente. È una verità. Ogni tanto ci devi mandare a fare in culo però, perché sennò non ci divertiamo. Cioè, se non ci mandi a fare in culo, non è che siamo... Noi non... No, io quando dite... come, le, come si dice in Cina, le cazzate, sì, si vanno a fare in culo, certamente. A volte si canta come rap nelle discoteche, quando io ho detto non mi rompete più, andate a fare in culo. Cioè, sono rimasto a Mediaset anche con quel ma che figura di merda che striscia. Ha voglia, ha voglia, come appunto. No. Comunque. Quindi però guarda, può essere un'idea, vado in vado io. Senti, cantami una canzone. Meno male che Renzi c'è. Tu sei diventato, no, renziano come Berlusconi ormai. Sempre quello, meno male che Silvio c'è. Perché guarda che il primo approccio sentimentale è stato prima politico da parte di Francesca, sì, con quello striscione. Cosa ha fatto? Sì. C'era scritto meno male. No, Silvio, sì, quello striscione. Dillo, dillo qui dalla poi zanzara, Francesca. Dillo. Detto, come? Dillo dalla zanzara, Francesca. Se ti sposi, fammi fare il testimone. Dillo, ti prego. Francesca, siamo amici, molto amici, sì, direi che siamo sempre rispettati, sì, e allora guarda, vai, fammi vai portare, c'è il velo? Sì, c'è, come no? No, vero. Ecco, mezzo testimone, dai, va. Fammi portare il velo, no? No, non portare il velo, come si dice reggere il velo? Sì, reggere il velo, vabbè, fare il testimone. Comunque, voglio guarda, comunque diciamola seriamente, sì, e io la pongo come domanda che non ho fatto a lei, o perlomeno non gliela farei. Qual è? Anche se potrei anche, qual è, anche qual chiederlo, è? Ma voglio dire, credo forse, cara Francesca, che un pochino merito, ma poi guarda. Vabbè, meglio di fare il testimone, giornale radio. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso, vedi, cioè, guarda, vedi, eccola qua. Devo darti una notizia che ti farà, no, ti farà drizzare i capelli e ti farà forse ripensare a tutte le stronzate che hai detto sulla violenza, le donne, queste robe qui. Sentiamo. Beh, sentiamo. Ti farà drizzare i capelli e ti farà pensare, forse ho detto un sacco di cazzate sul femminicidio, sui delitti nei confronti delle donne, sentiamo, su quelli che volevano avanti, introdurre un reato, il femminicidio. Senti. No, lo vogliono. Allora, c'è un sondaggio fatto da un'agenzia dell'Unione Europea, l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali. Non dire che non è credibile, non dire che non è credibile. Lascia perdere, è un'agenzia europea molto importante, la quale ha detto che i paesi dove ci sono più violenze sulle donne di qualsiasi, sì, tipo, dalle più piccole, sì, alle più grandi, sì, sono i paesi scandinavi, con la Danimarca al 52% di donne che raccontano di aver subito violenze, poi c'è la Finlandia, poi, beh, c'è la Svezia, poi i Paesi Bassi, poi la Francia, poi la Gran Bretagna. L'Italia è al 18° posto. Chiuso ogni discorso sulla violenza sulle donne. Ma non è, però, non c'è nessuna emergenza. Ma non è che se sei al 19° posto il tema non esiste. Ma che c'entra? Ma non esiste nessuna emergenza. No, momento. In più, aspetta, ti aggiungo una cosa. Il 58% delle donne interpellate dicono che non esiste una legge che possa impedire le violenze, soprattutto questo. Vabbè, basta, io non voglio più parlare di questo discorso. Infatti non c'è una legge in Italia, non c'è un'emergenza violenza nei confronti delle donne. Non esiste un'emergenza. Non esiste un'emergenza, non esiste. Vorrei dire un'altra cosa, io adoro, no, il genere femminile, le donne, non è questo il punto, voglio che abbiano gli stessi, tutto uguale, però io non sopporto la vicenda delle quote rosa, adesso stanno discutendo per quello che riguarda l'Italicum sulle quote rosa. Cioè, ancora uno pensa che si debbano introdurre le quote rosa nella politica? Le quote rosa, i ghetti? E basta. Dai. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La Crimea vota l'adesione alla Russia. Per Kiev è decisione illegittima. Cos'ha che i uomini armati occupano la TV? L'Europa valuta le sanzioni. Replica del governo alle critiche europee. Nessuna manovra correttiva. Renzi, Bruxelles, non ci dà i compiti a casa. Sappiamo cosa fare e lo faremo. Forse lunedì il voto sulla legge elettorale. Napolitano fuorviante chiedermi di intervenire, la Camera è al lavoro, io la promulgherò dopo attento esame. E ancora scontro sulla presenza delle donne nelle liste elettorali, pressing bipartisan per la parità di genere, il PD non si può tornare indietro. Grillo espelle dal Movimento 5 senatori dimissionari, busta con proiettili Aureliano e Battista, nuovo scontro in aula con la Boldrini. Scontro tra due treni sulla linea Catanzaro-Cosenza, 10 feriti, 2 donne gravi, le cause, errore umano, malfunzionamento di uno scambio. Gli oculisti sul caso Novartis Roche, tanti pazienti esclusi dalle cure per l'impossibilità degli ospedali di rifornirsi di farmaci troppo cari. continuano le grandi inchieste della zanzara. Dopo i gay camionisti, dramma camionisti, sì. C'è un altro filone. È vero che in provincia d'Imperia, in una frazione d'Imperia, si aggira indisturbato, questa è una roba seria, no, questo è serissimo, indisturbato un pedofilo? No, anche quell'altra serie. Questa l'accusa, ricominciamo da capo ovviamente, questa l'accusa di Don Arrigoni. Montegrazzi è piccola, ma è interessante, c'è una mia carissima amica Giannina che dice, non, visto che il pedofilo è stato... Perché c'è anche un pedofilo. Ah, sì, infatti mi dice. Da un mese e mezzo, problemi, certo. Un insegnante di musica. E lei mi guardava e mi diceva: Walter, noi non ci facciamo mancare niente. In piccolo c'è tutto. Foggia 180.000 abitanti. Ma ci sono le stesse cose. Un pedofilo a Montegrazie, Imperia. Un maestro di musica. Ieri sera interviene un ascoltatore che dice di essere, poi abbiamo controllato, è vero, un abitante di Montegrazie, il quale dice: è vero, c'è un maestro di musica, ha una moglie, una figlia, è una vergogna che questo parroco si esprime in questo modo, però non ci ha detto non è pedofilo, non ci ha detto nulla. C'è gente che si fa il mazzo, che parte la mattina. Ma il pedofilo, voglio sapere del pedofilo. È un'affermazione di una gravità, Ma esiste o non esiste sto pedofilo? Non esiste, nel senso che uno è un pedofilo quando viene condannato, è una vergogna. Ma un maestro di musica, esiste questo maestro di musica? Allora, il fatto che esista questo non vuol dire che uno sia un pedofilo. Che ci può essere un maestro di musica che, tra l'altro, molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, non è neanche della zona e non è neanche di Montegrazie. Allora, un deputato del Partito Democratico, Popolo della Radio, Popolo della Zanzara, molti di voi saranno d'accordo, te lo dico subito, è un nostro amico, si chiama Stefano, sembra che abbiamo tanti amici. Stefano, non abbiamo nessuno. Amici, dici, in verità ci odiano tutti. Ci odiano tutti, comunque questo qua è davvero un nostro amico, c'è una persona che conosciamo, che apprezziamo, ma non per questo siamo clementi nei confronti di quello che ha scritto su Facebook. Si chiama Stefano Esposito, Partito Democratico, lo conosciamo, un senatore che si batte a favore della TAV, che viene spesso minacciato, ha la scorta, eccetera, eccetera. A proposito di quell'omicidio efferato avvenuto nei giorni scorsi a Milano, no? Di quella signora sudamericana uccisa da un suo connazionale barbaramente insieme al figlio di 3 anni, una cosa tremenda, sono stati sgozzati tutti e due. Esposito scrive: una mamma e il suo figlioletto di 3 anni massacrati perché lei ha detto no alle avance di un uomo malato, che poi era ubriaco, in realtà. Comunque, mi dispiace, ma io per gente così vorrei la pena di morte. Lo so, non è un pensiero di sinistra, ma come fai ad ammazzare un bambino di 3 anni, cazzo? Cazzo non l'ho detto io, l'ha detto lui, Sì, sì. Tanto per inquadrare, insomma. Stefano Esposito, classe 69, torinese, impiegato. Questo scrive: so che molti di voi sono d'accordo, cari ascoltatori, lo so, lo sento. Io non è che, siccome è del PD, lo difendo come pensa qualcuno. Dico che ha detto una sciocchezza clamorosa. Questi politici, siano della Lega, siano essi del PD, siano di Fufu, di NQQ, quello che è, non devono intervenire sui casi di cronaca, non possono strumentalizzare la cronaca a fini politici. Basta! Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Beh, no, sì, lo paghiamo, però non è che c'è niente di male a pagare le persone. Cioè, chi è questo qua? Questa era Reggi, ti ricordi? Chi è questa? Ah, Reggi, sì, se non sbaglio. Renziano su Reggi, no? Siamo qui, 800240024, Riccardo Torino, buonasera. Caro Cruciani, dove andiamo? No alle quote rosa, la zanzara è contro le quote rosa. Beh, no, un momento. Sì, sì, io sono contro le quote rosa. Sì. Come, siamo a metà e metà. Tu sei a favore? Io no, tendenzialmente mi sembra. Cioè, se serve favorire l'ingresso. Ma di sì o no? Ma perché ti devi imbrogliare? Perché un po' mi rompe le palle dover dire di sì a una roba che politicamente corre. Che i tuoi amichetti poi ti rompono le palle se dici di no. Tutte le donne che conosco io di sinistra sono contrarie alle quote rosa. No, ma lo so, ma insomma, si facessero sentire, però invece di. No, invece io ne conosco un po' di donne di sinistra, secondo te. Però beh, sì, dico certo, in un contesto. Sei circondato da donne di sinistra. Diciamo. Ma ride? Sì, no. Ma ride? Sì, prego. Prego. Mi piacerebbe andare a fare in culo. Ecco, soprattutto, soprattutto perché tu. Però sì, sono a favore delle quote rosa, perché in un mamma sistema mia, come questo, in cui per garantire l'ingresso delle donne. Non capisci un cazzo. In questo caso non capisci un cazzo. Comunque sei a favore delle quote rosa, abbiamo capito. Allora, c'è Riccardo da Torino, fammi sentire. Eccomi qua. Allora, ecco, oltre a Ponte Cagnano, caro Luciani, non si dimentichi di richiamare il nuovo apostolo Giacinto e anche quel Ruggero di 54 anni che è vergine, abbia solo paura del giudizio divino, come diceva lui. Vabbè, se uno può essere, sì, io dico, per me è una follia, è uno malato che è vergine fino a 56 anni, però comunque. Ecco, ma comunque io sono una, sono incazzato in una maniera, sono un vecchio elettore di sinistra. Io vorrei capire cosa diavolo, cosa cazzo si, ma io che cosa si inventa questo presidente del consiglio. Adesso parla di edilizia scolastica, i miliardi dell'edilizia scolastica, quando le scuole così finiranno tra 4 mesi, di quei soldi forse li avremo bisogno tra 4 mesi. Vai in Abissinia a trovare, non si sa bene la ragione. In Abissinia, in Tunisia è andato, ma quale Abissinia? In Tunisia è andato. In Abissinia, ma è che è rimasto al coso lei, all'impero? No, ma non è questione, ma adesso scherziamo, dai, era giù a fare il pagliaccio, ridiamo. Vabbè, ho capito, adesso è andato in visita in Tunisia. Era barbicato su una sedia, forse poteva fare un po' di tenerezza a sua moglie, ma era un po' anche imbarazzato, non lo so. Vabbè, Riccardo, mi sembra di capire che a lei Renzi non stia molto simpatico, ma lei è uno di sinistra, per chi vota di solito? Ma guardi, io scienze politiche si insegnano all'università. Io non voglio dire che la politica sia solo quella e basta. Ma insomma, non si può fare un bagno di narcisismo tutti i giorni. Vabbè, è una cosa che non è possibile. Secondo lei è, come diceva ieri Freccero, Renzi è sostanzialmente un PR, uno che fa pubbliche relazioni. Ma si sta riempendo la sua vita di quello che vuole lui, ma non dell'Italia. Le sta sulle palle Renzi. Benissimo, Gianfranco da Milano. Per adesso sono parole, sono annunci, poi vedremo i fatti. Quando andremo a stringere sul lavoro, vediamo se quelle norme sono davvero rivoluzionarie, sono davvero da shock oppure sono acqua fresca. No? Vedremo, verificheremo. Gianfranco, Milano. Sì, sono qua. Ciao Cruciani. Basta questa storia delle quote rosa, non ne posso più. Scrivetemi ancora. Infatti, facciamo un comitato contro le quote rosa. Sono un'umiliazione per le donne. Perché è un'umiliazione per le donne. Le donne dovrebbero sentirsi umiliate. Ma le donne già fanno fatica a entrare nel chiamateci, mondo del lavoro. Chiamateci, donne che sentite la zanzara, siete tante, chiamateci. Vi umiliano o no queste quote? Io sarei umiliato. Ma non umiliato. È ideologico però anche tu. Stai zitto forza. Tu, Gianfranco. Scusa. Gianfranco. Sì, ciao. Parenzo, per favore, devo fare una riflessione seria. Scusa Gianfranco. Scusa Gianfranco, prego, scusa. Dimmi, prego, prego. Allora, questa legge elettorale, io sono un ex PDino, eh? Ex PDino, vabbè. Esatto. Quindi questa legge elettorale è l'ennesima presa in giro per il popolo italiano, perché sembra fatta apposta per mantenere tutto com'è. Tutto mantenere i figli del potere alle solite persone. Ma che vuol dire mantenere i figli del potere alle solite persone? Che vuol dire? Mi dia una spiegazione. La legge elettorale, la legge elettorale è una delle leggi elettorali che si possono fare. Mi dirà la cosa assurda è che c'è un pasticcio enorme. Il pasticcio è che praticamente non si può andare a votare. Anche lo stesso Napolitano oggi ha detto: verificherò con grande attenzione prima di promulgare la legge elettorale, perché insomma si crea una situazione incredibile con due leggi diverse, col Senato da riformare. Mare, tutto bloccato, amici miei. Questo bisogna verificare. Gianfranco, allora? Ma per fare un grande pasticcio ci voleva un grande presidente, o sbaglio? Cioè, questo presidente ci voleva Renzi per arrivare a fare un accordo di questo genere. Allora, solo per la Camera, così se si va a votare prima non vince nessuno come è tuttora. Se si va a votare fra 18 mesi un partito piglia tutto. È in barba a una democrazia, una rappresentanza minima di altre voci, ma non vabbè, parlo Gianfranco, dei partitini. Un attimo, fermi tutti, torniamo tra un secondo. Si è presentato qui negli studi Radio 24, fra poco lo presento, gli faccio bere un po' d'acqua con una meravigliosa camicia rosa, anzi no, viola a righine, Roberto Formigoni, uno dei leader di NCD, che ripeto non è la sigla di un noleggiato, bensì del nuovo centrodestra, Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, che poi ci spiegherà anche questa storia del pranzo con Feltri, 243 euro tra i rimborsi della regione Lombardia, una cosa incredibile, ma con la sua, come dire, ironia, con la sua... Che c'erano altri direttori di quotidiani, avevo invitato invitato i direttori dei quotidiani milanesi, si sono presentati in quattro. Cioè, quindi... non c'era solo Feltri in No, assolutamente. Ma per questo c'era una cosa nuova. Ma c'era euro a testa, povero Feltri, ci ha dato di mezzo. Quanto è costato? 50 tutto? A testa, 243 200... complessivamente. Sì, e quanti eravate? Eravamo in 6. Eravamo in 6, dunque 243 diviso 6? 40. Mi raccomando, 40,5. Giuro di dire 40,5. Tutta la verità, nient'altro che la verità. È così. 40,5 euro. Lo lascio bene. 40 euro a testa, non c'era solo Feltri, 243 euro. La cuffia, ecco. Tanto è abituato. È seduto dove c'era, dove era seduta F. Ball, no? No, F. Ball era accanto a me. F. Ball promuove una meravigliosa campagna per la legalizzazione della prostituzione. Sì, non so se la conosce il signor Fondi. Ma sì, la conoscerà perché come è diventata famosa. Personalmente, cioè. Ma certamente. Ma come fate a mettere in dubbio che io conosca F. Ball? Ma dai. No, ma certo che la conosce, ma la conosce perché opera in Lombardia da tanti anni e poi crea campagna. Opera, questo è un verbo da segnare negli annali del giornalismo. Opera. Vabbè, che devo dire, che fa quello che fa. Opera. No, mi sembra un termine anche discreto. Allora, però, dato che ho iniziato con questa cosa di Feltri, la volevo preparare bene, però va bene andare diretto con lei. 243, dunque lei dice questa cosa qua, che per cui lei non è indagato. Non ero comunque indagato anche se fosse costato 243 euro, ma a maggior ragione. Ma fare i pranzi è una cosa assolutamente normale, no? Come attività istituzionale, fare pranzi o cene. Ma no, una cosa assolutamente normale no, ma ci sono delle occasioni di particolare rilievo in cui l'ospite di rilievo viene anche invitato a pranzo. Le ripeto, in questa occasione avevo invitato, non ricordo più per presentarmi, ma presentarmi. No, credo che l'abbiamo fatto lì da me, nei locali della regione. Quindi avete fatto un catering, catering. Sì, 243, dunque non c'era solo Feltri, non c'era solo, ma altri tre, eravate quattro, diviso 243. Eravamo in sei, perché sei. Poi avevo portato con me due collaboratori. Dunque tutto rientra nelle spese normali. Ma assolutamente normali, anche perché a prezzo di 40 euro, certo. Beh, non è proprio, si può anche spendere meno, però effettivamente uno dice, sì, quando certo. Ordina il catering, voglio dire, quando inviti i 40... direttori dei quotidiani, meno di 40 non euro, è che gli puoi dare un panino con la fettina di salame adesso, onestamente. Per esempio c'è un'altra cosa degli architetti che le attribuiscono, ho visto oggi, idem. 2529, però lì è 180 a testa, sì. Allora, mi sembra. Anche qui chiariamo che non c'è nessuna indagine, no, vabbè, in corso, detto. È tutta cosa. Allora, qui se ricordo bene, perché fra l'altro sono eventi che risalgono al 2008-2009, sì, se sì. Ricordo bene, qui devo ancora farmi dare la testimonianza, fra l'altro non sono più Regione Lombardia, non è che posso andare io a spulciare gli archivi, sto chiedendo. Tanto hanno preso tutto. Era la presentazione dell'Expo con i primi grandi paesi che avevano deciso di aderire, che avevano mandato i loro commissari generali ed erano venuti anche con gli architetti a seguito, che dovevano studiare i padiglioni. Quindi anche con questi architetti è stato utile fare, oltre a qualche giornata bisogna di lavoro, oltre a un paio di giornate di lavoro, volevano conoscere il presidente di Regione Lombardia, li ho invitati a. Per cui là deve chiarire qua a testa quanto è costata questa e roba. E che ne so, fate voi la divisione. Se 180 a testa è un po' troppo stavolta. Non ne ho la minima idea, però perfino la Procura di Milano ha giudicato congruo il prezzo. Torno a dire, già congruo, no, già deciso tutto. Assolutamente sì, tenga presente, secondo lei i ricevimenti al Quirinale, a Palazzo costano Chigi costano meno, dice lei. No, costano. Però la politica era più autorevole, Formigoni, lei concorderà, spendeva molto di più, poteva permettersi di spendere molto di più. Cioè, lei è consapevole del fatto che quando la stampa riporta questa roba qui, no? Formigoni, colazione con Feltri 243 euro, cioè la gente può pensare questi qua magnano a spese nostre, e invece non è così. Beh, un po' a spese nostre, ma sì. No. Torno a dire, dobbiamo metterci nella logica delle istituzioni. Le istituzioni cosa sono? Sono come il consiglio di amministrazione di una grande azienda. Quando il direttore del Sole 24 Ore paga il Sole 24 per parlare, è ovvio, se deve ricevere degli ospiti stranieri di riguardo, è chiaro che gli offre accoglienza, gli offre ospitalità, magari in qualche caso gli pagate anche l'albergo in cui pernotta. Lei è mai stato invitato da Napoletano a pranzo? Da Napoletano no. Perché qui sopra, di solito mangia qui. Mangia e beve anche lui. No, mangia normale, perché sta molto a dieta, sta attento. Vabbè. Anch'io sono a dieta. Mangia il pollo. Anch'io sono a dieta. Infatti, anch'io sono a dieta, in questo momento sono a dieta. Quanto vuole dimagrire? Vede che mi nutro della vostra acqua? Anche qui l'acqua spese del contribuente, no, spese del sole 24 ore, roba privata, lei come roba sei privata, sa? Roba privatissima, vabbè. Scusi, vuole tornare a correre? Adesso andiamo. Io sto correndo. Ah, sta io correndo per fare che? Maratona di Roma? Ma no, Maratona, la mia distanza sono i 10-15 km. Io sono un corridore da Stramilano, la prossima Stramilano la fa. tornerò a scendere. Beh, però 21, ai nastri di partenza, o 21 o 10, devo ancora valutare. Ma staffetta Maratona di Milano? No. Io lo farò per beneficenza. Staffetta Maratona. Sì, l'ho fatto un paio d'anni, perché no? Mi lancio un'idea, vedrò. Senta, io prima ho tuonato contro le quote rosa, che per me sono, lo dico a modo mio perché sono un conduttore, come sa. Tuono anch'io. Cioè, è una cosa che è un'umiliazione per le donne. È un'umiliazione per le donne, un'umiliazione per i cittadini. Difatti, ma anche 60 e 40, quello che potrebbe essere un niente. Basta metterle in lista, però. Attenzione, certo, bisogna metterle in lista e poi facciamo scegliere al popolo sovrano. Vabbè, introduciamo un voto di preferenza. No, attenzione, al Senato il nuovo centrodestra farà battaglia per introdurre il voto di preferenza affinché sia il popolo elettore a scegliere quante donne e quanti uomini. Tornate con e soprattutto l'emendamento quali sulle donne e quali uomini. Certo, noi proponiamo l'emendamento sul voto di preferenza. Ma non lo vuole nessuno, lei lo sa, no? No. Le dico una cosa sorprendente, il Movimento 5 Stelle lo vuole, sì, una parte del Partito Democratico lo vuole. Quindi cioè, la battaglia passare, sarà, la battaglia cioè, sarà le preferenze molto ancora non è finita. Non è finita. Attenzione, la preferenza, noi stiamo parlando sì, per una di sola un voto di preferenza. Non come era una volta con non le cordate. Come era una volta che erano 4 o 5 e contro cui c'è stato anche il referendum, perché il referendum del 91 ha abolito la preferenza multipla e ha lasciato la preferenza singola, che secondo noi è un fattore, fra l'altro, che può riavvicinare i cittadini alla politica. Sì, però si spendono un sacco di soldi. Ma non è vero, ma campagne elettorali, si spendono un sacco di quattrini. La realtà è questa. Ci sono dei limiti ridottissimi per la spesa. Per esempio, adesso alle elezioni europee del 25 maggio gli elettori utilizzeranno il voto di preferenza. Lì capito, ci sono addirittura tre preferenze. Ma lo sa uno dei candidati quanto spendono per la campagna elettorale? Si fermi perché la legge stabilisce dei limiti. Proprio perché si era arrivati a spendere cifre folli, è stata introdotta una legge che limita le spese per la campagna elettorale. Ma lei si candiderà, sì, a che cosa? In Europa. Capolista, succede. Lo sto valutando, in grado di darvi la notizia stasera. Non vi dico diamola, le indiscrezioni. Dicono che lo sto valutando. Il nuovo centrodestra me l'ha chiesto, lo sto valutando. Tanto casomai è tu una cosa di bandiera, resta a fare il senatore, su, diciamo, non è che vai in Europa. Lo sto valutando. Lo sto valutando. Voi sapete che in Europa ci sono già stato anni. Sarebbe una testimonianza lì per fare il capolista e nella circoscrizione, no? Prendere un po' di voti, perché lei comunque ancora un po' di voti ce l'ha. Qualcuno? Quanti voti potrebbe prendere lei? tanti. 70.000 li prende? Tanti, di più. Cioè, quanto vale Formigoni oggi? 100.000. Questa è una cosa interessante. Questa è interessante. Allora, lei sa che nel 1984 valevo 454.000 voti. Siamo una preistoria. Nel 1989 era giovane. Nel 1989 valevo addirittura 501.000 voti. Adesso abbiamo cambiato era geologica. La politica è cambiata. No, sono curioso anche di vedere la mia quotazione adesso al fixing della politica, quanto vale. Faccio Formigoni una scommessa con noi: se prendo meno di 100.000 mi ritiro dalla politica. No, se prendo meno di 100.000 è una sconfitta. È una sconfitta. Sì. Beh, siamo vicini. Secondo me se si candidasse potrebbe 120.000 voti. Va bene, lo accetto come augurio se mi candiderò. Sotto i 100.000 è una sconfitta clamorosa. No, clamorosa no, perché probabilmente risulterà il primo degli eletti. Però le roderebbe molto. Sì. Diciamo che sento dalla simpatia che sento della gente, dall'affezione, adesso, dalla stima. Per strada adesso la gente l'avvicina proprio. Qualcuno si avvicina e dirà: stronzo, Formigoni, ladro, buffone, come fanno con gli altri politici. Non c'era una volta che è successo. È successo un paio di volte. Gente che l'abbraccia. No, Fideconti è stato inviato a giudizio. Allora, siate seri per un istante, anche se la vostra trasmissione non è un miracolo di serietà. Io ricevo molte più testimonianze d'affetto e di stima di quanto voi, di quanto io stesso pensassi. D'accordo, perché lei non gira soprattutto molto, adesso che non sono più presidente di Regione Lombardia, c'è molta nostalgia. Sono quelli di sinistra che, siccome lei è andato a un certo punto contro Berlusconi, ormai non la vedono più come berlusconiana. Questo è il punto. Sono quelli di sinistra che con me erano valorizzati perché in consiglio regionale potevano avere un punto. A noi non ce ne frega alto. Niente del rinvio a giudizio, nel senso, non diamo le cose, ci sarà il processo, deciderà. Lei mi sembra tranquillissimo, mi sembra che non abbia paura. Certo, no. Però, se è assolto, cosa fa? Cioè, ci dica se fosse assolto. Ma continuo la mia vita normale, ho continuato dopo le precedenti 11 assoluzioni. Cioè, non è che sia un'esperienza nuova. Un tuffo da qualche parte. Ma d'estate mi piace sempre andare a mare, continuerò ad andare a mare. Una vacanza. Una vacanza, se sarei estate. Una vacanza. Sarebbe clamorosa. I primi sconfitti della sua soluzione chi sarebbero? Repubblica, secondo me. No, non mi faccia dire. Io non voglio male a nessuno. Se le cose, o meglio, non se, quando arriverà la soluzione, faremo una grande festa. Non è che sono dei dilettanti. Una grande festa che però si paga lei. Faremo una grande, come sempre. Se la paga lei però la festa. Come sempre, mio caro. Perché vede, nelle mie campagne elettorali c'è sempre un piccolo o medio budget finale per la festa. È sempre dentro il preventivo della campagna elettorale la festa, quindi in questo caso metterò via qualche soldino per fare la festa quando arriverà la soluzione, che arriverà. Senta, ma voi sulle quote rosa fate barricate oppure alla fine se passa su sta cosa delle quote rosa? Guardi, noi facciamo le barricate, nel senso che facciamo una battaglia all'ultimo sangue sulla preferenza, il che vuol dire che cercheremo di convincere tutti fino in fondo. Sulle quote rosa decidono loro, però come diceva lei mi sembra umiliante per le donne stesse, che non sono una specie protetta, non possiamo trattare le donne come i panda. Non possiamo trattare le donne come i panda. Questo è vero, però siccome fino ad oggi è stato difficile anche le donne, anche le donne di tutti i partiti stanno ribellando in quest'ora dicendo no, una vergogna, eccetera. Esattamente. Si va forse verso questo 60-40 senza distinzione, che poi in realtà significa semplicemente 60% di uomeni e 40% donne, diciamo la verità. È un sotterfugio per non dare. Ma se facciamo scegliere al popolo, il popolo sceglierà quante donne e soprattutto quali donne. Sì, però bisogna mettere in lista poi. Certo, bisogna mettere in lista. Senta, ma la cosa clamorosa di questi giorni è, lei l'ha già spiegato più volte, è che alla fine voi avete perso, senza che siano indagati, un ministro nel precedente governo. Esatto, Nunzia De Girolamo. Un sottosegretario. Gentile. In realtà il PD c'ha 3 indagati, uno anche per cose serie, 2 per la questione dei rimborsi. E va 4 bene, indagati, sempre, a dire il vero. 4 perché c'è, no, 4 un altro è vostro però in realtà. No, chi? 4, nei quattro sottosegretari. No, poi no, il ministro Bubbico, è Luppi che fa il quinto. Bubbico. Barracciu è un altro sempre del Basso PD. De Caro. Basta. No, l'altro ex governatore della Lucania. Uno è Bubbico, l'altro è l'ultimo. Sì, l'ultimo, sì, l'ultimo, ce l'ho scritto qua. Sì, De Filippo. Esatto. Allora, 4-4, ma che succede? Cioè, la Boschi innanzitutto è diventata una di voi. La Boschi ha fatto per la prima volta dopo 30 anni un discorso giusto. Non lei, poveretta, che ha 33 anni. Il partito, le dichiarazioni della Boschi, io stamattina le ho applaudite. Ho detto, finalmente, una il Partito Democratico, ma non una di noi, una che ha letto il sussidiario. Le potevo dire di io. Quinta elementare. Io cose, ma dire. C'è scritto sul sussidiario, nel codice penale e civile, c'è scritto che l'informazione di garanzia non è una condanna, che il processo in corso non è una condanna. Finalmente che il Partito Democratico ha riconosciuto la verità con 30 anni di ritardo, ma io ho applaudito. Noi che non siamo giustizialisti, si può dire, lo potevo fare io quel discorso lì uguale, sì, identico. Ma sì, ma perché è la nuda verità, cioè l'informazione di garanzia è a tutela dell'indagato. Sì, ma questo qua è la vostra, ho capito, ma non l'hanno candidata la regione. Però scusi Sardegna. Un attimo, qui c'è stata una cosa che però PD, attenzione, non bisogna chiedere a Formigoni, noi non Formigoni... siamo giustizialisti, quindi non chiediamo le dimissioni di questi colleghi del Partito Democratico che sono indagati, perché ci sembra giusto che abbiano il diritto di difendersi. Beh, altrimenti si dovrebbe dimettere pure lei secondo questo criterio, insomma. No, lei non ha cariche, non ha cariche, esatto. No, sono presidente di commissione, ma anche si dovrebbe dimettere anche Luppi, insomma, secondo sì, questo voglio dire, ma sarebbe un'ecatombe, nel senso che poi le vittime verrebbero riabilitate dopo la loro morte. Lei ha presente in questo periodo quanti politici sono posti a processo sono stati assolti? Da Scaiola, io su questo con me sfondo una porta aperta. Con me sfondo una porta aperta. Certo che c'è stata da questo punto di vista una clamorosa giravolta di Renzi. Mi dica la verità, Renzi al governo è una cosa diversa da Renzi. Ma prima lo sa di che anche Renzi c'ha il suo processo? Sì, però è una roba. Lo sa che è già stato condannato? Sì, è vero, però è una roba della provincia di cose, della Corte dei Conti. Ehi, lei gode per questa cosa. Guarda che io sono tifoso di Renzi. Lei vorrebbe tutti indagati. No, io vorrei che la mia polemica è con quella parte di stampa faziosa che strumentalizza. Cioè tipo chi? Il Fatto Quotidiano è il vostro principale nemico? Non lo so, ma vediamo domani come tratteranno il caso del povero Vendola. Lei sa che oggi per Vendola è stato chiesto il processo per concussione. Bello, che non è proprio una scherza. Non lo so, voglio vederlo domani. Voglio vedere alcuni editorialisti. Ma perché Vendola stesso è andato giù duro quando gli indagati erano gli altri. Diciamo la verità. Cioè si dovrebbe dimettere. Comunque no, vede, la differenza tra noi e loro è che noi siamo garantisti con tutti, quindi nei confronti dell'avversario che ha un processo in corso, diciamo, dimostri la sua innocenza. Ma la sinistra dovrebbe chiedere le dimissioni di Vendola, questa la è sinistra dovrebbe chiedere perdono a noi, dovrebbe chiedere scusa a noi per il modo in cui ha utilizzato contro di noi delle accuse insussistenti. Per cui la Boschi è una di noi. Vabbè, ma questo qua è ottimo. La Boschi la sente come una molto più vicina. Cioè, molto più cioè potrebbe stare tranquillamente la NCD la Boschi, diciamola tutta. Per le affermazioni di stamattina, sì. Poi dal punto di vista della politica generale. Beh, quello no, certo. Dire, però certo. Da questo punto di vista, in questo momento Renzi lo sente più accessibile rispetto a quanto lo sia stato Berlusconi negli ultimi. Ma guardi, Renzi ripeto, io ho grande stima. Mi auguro che la sua vivacità, la sua forza travolgente. Riesca a trasferirla al governo e che il governo faccia veramente cose serie. Ma è un suo avversario politico o no? È un avversario politico perché è segretario del Partito Democratico, ma in questo momento è un alleato. Cioè in questo momento il fatto che siamo al governo insieme per cercare di trar fuori l'Italia dai guai prevale su qualunque altra considerazione. Però secondo me non è escluso che in futuro ci sarà ancora un altro governo Renzi, PD e NCD. Mi dica la verità. Può essere. Cioè, noi innanzitutto cerchiamo di fare bene. Cioè non esclude nulla governo. Lei, non esclude nulla. Non escludo nulla perché la politica cambia. C'è cioè, l'alleanza la gente con Berlusconi vuole... che è stata non è sicura. Non è scontata, non è affatto scontata. Noi siamo il nuovo centrodestra perché eravamo stufi del vecchio centrodestra. Che ma questo è interessante. Senta Formigoni. Parenzo, che c'è? No, dico per scappi aprire perché non sei qui, perché no, non puoi perché toccare mi dispiace, con mano toccarlo, vederlo, mandami una che foto. Che incredibilmente una giacca uguale alla mia oggi. Però volevo capire questo da Formigoni, parliamo di una cosa molto molto seria. Qual è? Le terze nozze di Berlusconi. Ah, ecco, sì. Allora, se lei... Caro Formigoni. Ma sono state smentite, ma sono state smentite. Ma poi tra l'altro Formigoni è, da questo punto di vista non, sembra, non si è sposato manco ma sono una volta. State smentite non le terze nozze non può dare consigli a Berlusconi. Oggi sono state smentite sia le terze nozze di Berlusconi, sia la vendita del Milan. Sì, lui l'ha smentita la vendita del Milan. Se vendesse il Milan, lei, per lei che cosa sarebbe? Un grande dolore? Oppure allora, il Milan resta allora, e Berlusconi... Guardi, i tifosi sono poi molto concreti. Se Berlusconi promette di metterci dentro un paio di miliardi nel Milan, viva Berlusconi presidente. Se non vuole più spendere se Milan. Non vuole più spendere, trova un arabo che ci mette dentro un paio di miliardi, viva l'arabo. Berlusconi adesso. Passa. Ma Berlusconi gli saremo tutti grati per quello che ha fatto in questi però, 25 anni, però adesso abbiamo bisogno di tornare a vincere. Come si dice, i tifosi dicono Berlusconi fatto, passa, il Milan resta. Il Milan resta. Beh, per cui se non vuoi più non mettere da me, come si dice in sì, ma io sono convinto che anche Berlusconi la pensi allo stesso modo. Quindi, beh, se ha deciso di spendere ancora, tiene veramente la presidenza. Se invece avesse deciso di non spendere più, venderebbe. Cioè, anche lì ha fatto il suo tempo, sta dicendo. No, insomma, no. Beh, sembra così, no, tra le righe. No. Il fatto è che deve tornare a spendere, perché questa squadra qui c'ha bisogno ma di 3, 4, 5 fuori classe. Dovrà spendere, matrimonio, separazione, un casino. 3, 4, 5, 6 fuori classe e torniamo a vincere. Ci vuole l'arabo per queste cose. Ci vuole l'arabo non soltanto in campo, perché questi due arabi che abbiamo preso, Tarab e Rami, funzionicchiano. Non sono male, non sono male. Però ci vogliono i crack. I crack, che significa i grandi acquisti. I crack. Formigoni è i crack, è un termine calcistico. Fantastico. I crack. Senta, lei consiglierebbe a Berlusconi di risposarsi per la terza volta? Queste sono veramente vicende personali, quindi se si vogliono bene, come Francesca dice sempre, il gesto sarebbe comprensibile. Però. Lei per esempio una cosa un po', io adoro le domande private, so che lei non le ama, però lei non ha un rimpianto, quello di... Quanti anni ha Formigoni lei? Quanti ne dimostro? No, quanti ne ha succede? Io ho 66. Non ha il rimpianto di non aver fatto figli? No, non ho questo rimpianto. Non ha rimpianto? No, io sono... Cioè, siccome lei viene da Cielo, un posto in cui conosco tanta gente, ho tanti amici, tanti anche figli, vicini ma a lei... certamente sì. Che hanno fatto un sacco certamente, di figli. Certamente, io li ammiro moltissimo. Lo so, li ammiro moltissimo. Non c'ha questo rimpianto? No, non ho questo rimpianto perché ho fatto un'altra scelta e non ho problemi su quest'altra scelta, ma dopodiché capisco benissimo le gioie della paternità. Le capisco benissimo le gioie della paternità. Non ha mai avuto nella sua vita un momento in cui ha pensato di adottare, ad esempio? Francamente no. Non ce l'ha avuto. O di adottare un bambino? Francamente no. No, vabbè, ma è neanche adottare. No, la vita è legittimo, per carità. Ma no, torniamo a una cosa politica, che riguarda l'abolizione del Senato. Ma la volete sul serio questa abolizione o no? Perché i capponi, sa com'è la storia dei capponi? Sì, ma allora, no? Allora ricominciamo a dire che il problema non è tanto i capponi senatori o deputati, perché cosa succede? Cioè, ma vedo difficile che lei si autoelimina. Ho detto che il Senato bisogna chiuderlo. O comunque non renderlo più elettivo, no? E non costoso. Perché secondo me. Quanto ci vuole? Quanto tempo ci vuole secondo lei per fare questa riforma? Vuole due anni? Un anno e mezzo, sì. Un anno e mezzo. 18 mesi. Perché il Senato non va integralmente abolito? Perché noi abbiamo bisogno di un luogo dove ci si faccia carico del raccordo tra la legislazione nazionale, quella regionale e locale e quella europea. No, mi perdoni. Conferenze Stato-Regioni, mille cose. Altrimenti i conflitti tra lo Stato e le regioni saranno sempre risolti alla Corte Costituzionale. Noi come NCD abbiamo presentato un progetto di legge per la trasformazione del Senato in appunto in Camera delle Autonomie, dove ci sarebbero membri eletti contestualmente i consigli regionali, quindi che sono anche consiglieri regionali, che vengono pagati dalle regioni, quindi senza un aggravio di spesa, ma che svolgono questo lavoro delicato. Però, sono tutte strutture burocratiche. Intanto il sorriso, no, il sorriso di Formigoni con cui è entrato nello studio mi fa capire che la partita in questi giorni l'ha vinta l'NCD. Assolutamente, di questo sono straconvinto. Beh, insomma, il passo indietro che di camicia Forza regalerà Italia. A Renzi? Ha detto che avrebbe regalato una camicia a Renzi con ma voglio il vedere come evolve. Voglio vedere come evolve. Adesso capisco che si sia fasciato di questi gessati o di questi abiti scuri che gli stanno bene. Tra qualche tempo, quando riacquista la sua libertà, gli farò un regalo. Non so, ma attenzione, gli regalo una mia camicia usata e non è che ne compro ma sarebbe una nuova. Come una camicia usata? Vabbè, ma è ovvio. Vabbè, una camicia indossata da Formigoni, ma scusi, vale molto di più che una camicia nuova fresca di vetrina. Qualcuno ha detto oggi, non mi ricordo chi, forse Toti, che Berlusconi sarà capolista alle europee. Le pare una cosa impossibile? No, cioè sarebbe una forzatura? No, attenzione, del tutto impossibile no, perché credo che tutto si giochi, ma legittimamente, su questo fatto che Berlusconi è ineleggibile, sì, ma non incandidabile. Ma lei pensa che sia una cosa legittima o una paraculata, una cosa un po' fuori dalle... Beh, una legge è fatta anche di cavilli. La legge è fatta anche di cavilli. Se gli è stata comminata l'ineleggibilità e non gli è stata comminata l'incandidabilità, lui potrebbe candidarsi e una volta eletto rinunciare all'elezione. E dunque? No, lei la considererebbe una cosa legittima? Cioè è legittimo che Berlusconi abbia l'ambizione, nonostante sia condannato? Sappiamo bene che il partito di Berlusconi è un partito personale, cioè senza la cosa senza Berlusconi, quanto prende Berlusconi, la metà dei voti? Prende molto di meno. Quanto? La metà? Sì, più o meno, insomma. Ah, Berlusconi vale la metà dei voti di Forza Italia? Insomma, direi di sì. Forse anche di più. Soprattutto da quando ce ne siamo andati. Allora, noi. Lei ha detto due cose. Allora mi faccia qua, tanto sicuramente ci sentiremo prima delle europee, però 100, o meno di 100.000 voti lo continuano la sconfitta. Quanto prende dalle europee? Noi è nuovo centrodestra. Mi faccio una previsione qui. Noi prendiamo tutto. Noi aspiriamo ad avere un voto in doppia cifra. 10. Ho sentito dei rumori di fondo. Ho sentito dei disturbi sulla linea, per cui mi permetta di ripetere per quelli gli ascoltatori. Doppia cifra. Disturbi. Aspiriamo alla doppia cifra. Però in questo momento i sondaggi ci danno stabilmente attorno a 6. Dunque, sotto il 6 è un disastro. Non è un disastro, sotto il 6 è una sconfitta. Se non entrate nemmeno, è escluso. Ma per carità, ma non è, questa è un'ipotesi che non prendiamo. Basta cambiare il quorum. Sciogliete il partito. Allora, quorum. Faccia qua una cosa: se non prendete il quorum, sciogliamo il partito. Non lo dica. Si scioglie da sé se non prendete. Ah, si scioglie da sé. Ah, veramente? Beh, qui è ottimo. Quindi sopra il 4. Alberto Formigoni, grazie. Buona serata. A voi, buona serata. Arrivederci. Ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità. Ricominciamo, fino alle 21. Dove sono tutti i parlamentari che andavano in televisione a dire che le liste bloccate erano una schifezza? Dove sono tutti quei deputati? Dove siete? Siete tutti lì, siete tutti muti, siete come i mafiosi, muti, non vedo, non sento, Onorevole Bonanno, la richiamo per la prima volta. Perché? Cosa ho perché detto? Perché mafiosi ai colleghi non glielo dice. Ho detto siete come, non esatto, sono. Lei siete come i mafiosi, no. Non lo può dire in quest'aula. Se lei insiste io le tolgo la parola. Ma perché va deve bene? Fare così? Perché lei non può fare così. Io posso fare così e lei non può fare così. Vada avanti, onorevole Buonanno. Però devo dire una cosa, su questo ha ragione Buonanno. Questo deve è il primo. Fare così? No, però questo è il primo episodio. Piagnucolava. Ma che piagnucolava? Piagnucolava come una mammoletta. Perché deve fare così? Perché Giachetti, bravissimo, polso duro Giachetti, lei questo, non come la signora. Ma sei uno stronzo, ma sei uno stronzo. Polso duro. Ma sei uno stronzo, l'ha dai. L'ha zittito, è come una mammoletta lui lì. Che faceva? No. E non aveva il colore da mettersi in faccia, non aveva la forca, non aveva la sciarpa. Ma sei uno stronzo, dai. Non aveva la ma scarpa. Ma non fare la testa di cazzo così, mammoletta, dai. Mammoletta. No, allora, devo dire la verità. Ha fatto un paragone come i mafiosi, hai il diritto di farlo. Dunque Giachetti ha esagerato. No. Giachetti ha esagerato. No, insultato tutti i senti la seconda cosa. Ceausescu. Ecco, allora mi stanno suggerendo se va meglio, signor Presidente. È un silenzio omertoso. Se va bene, è un atteggiamento mafioso, non so, qua me ne stanno dicendo di tutti i colori. Però io volevo concludere. Sì, ma qui non siamo in un'aula parlamentare, ma difatti, alla quale potremmo adeguarci. Siamo in un'aula parlamentare, talmente parlamentare, che invece di fare la legge per cercare di andare incontro ai cittadini, noi andiamo ancora più lontano, andiamo sul pianeta Marte. Tra un po' saranno i marziani a decidere chi deve governare questo paese. Non può essere Mr. Bean che decide che cosa dobbiamo fare. Ma ha ragione su questo, ha ragione, non si può andare a votare, ha ragione. zittito da... Ma che zittito? Poi con Fiano, il tuo amico Fiano, dice da sottosegretario a sottaceto. Senti, ma è proprio una persona di cattivo gusto, è proprio una persona spiacevole, capito? Perché forse c'è un relatore che si chiama Fiano, che forse perché non è diventato sottosegretario è troppo nervoso, non è diventato sottosegretario, è diventato alla fine un sottoceto, non lo so. Sta di fatto che comunque quello che è il risultato, quello che concludo, è il risultato, è un risultato mediocre. No, ma, capisci? Da sottosegretario a sottaceto. Sì, questo è chiaro. Ma perché uno può dice, fare... calmi, no, ma le parole testuali sono quelle da far isolare. Calmi, no? Sappiamo, come dire, è matto. Se, perché se tu isoli il finale... sì, lo so, sentito. Mi dice, quello è il punto vero. Dice, no, calmi, colleghi, sapete che, no? È matto, sì, è matto. Dillo il sottotesto! Poi viene cacciato perché a un certo punto comincia a parlare un altro e lui sta lì con un megafonino. Con un megafonino. Ma capisci che è trasformato? Sì. Ma capisci che non... numero uno! È il numero uno! Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Onorevole Bonanno, la richiamo all'ordine. Onorevole Bonanno, la richiamo per la seconda volta. Onorevole Bonanno, la espello dall'aula. Per favore, onorevole Bonanno, la prego di uscire dall'aula. La prego di uscire dall'aula. Onorevole Bonanno, la prego di uscire dall'aula. Onorevole, prego i commessi intanto di togliere il megafono, grazie, e l'onorevole Bonanno deve uscire dall'aula. Onorevole Bonanno, la prego. Siamo al top, Filippo, provincia di Modena. Ciao, buonasera ragazzi. Vai. Sono d'accordo con te al 100% su tutto, stasera sono esterrefatto. Lo so, ogni tanto succede, dai. Mamma mia. No alle quote rosa, no alle quote rosa. Perché è completamente inutile, anche perché le donne hanno più palle degli uomini in questi ultimi anni. Questo cosa c'entra? Vabbè, questo che c'entra che hanno più palle degli uomini, scusa. Ah, no, invece ha ragione, dice. Non c'è bisogno di dargli le quote rosa perché ce la fanno da sole senza problemi. Ma non è vero. Sì, è vero. Nei luoghi di lavoro le donne ancora fanno grandi difficoltà a entrarci. Ma basta con questa retorica assurda. Ma è vero, ma smettila. Le donne sono il pilastro della società moderna. Vabbè, questo lo sappiamo. Proprio per questo spesso non hanno bisogno di corsie preferenziali, di ghetti, vergogna, dai. Basta, sono discussioni dell'Ottocento queste qua. Seconda cosa, la pena di morte, quel disgraziato che ha ammazzato il figlio di 3 anni. Non sono d'accordo al 90%. Ma che vuol dire non sei d'accordo al 90%? Prima della pena di morte, un po' di tortura anche. Ecco. Ma no, ma dai, smettiamola. Io su questo non sono d'accordo, d'accordo. Ma dai. Non è un referendum. Viola. Il problema è che poi questi qua restano in galera poco, gli danno l'infermità mentale, dicono che sono matti. Indulgenze. Ma che fai l'editoriale della Padania? Ma che fai? Dai, no, l'editorialista della Padania. Ma che c'entra, scusa? No, hai detto una cosa che ci può essere scritta sulla Padania. Io non ho mai votato lei. No, ma sta dicendo a me, non a lei. No, tutte e due, figurati. Allora, vabbè, allora? Basta, tutto qua. Poi volevo sapere come era andata a finire con Barnard. Ah, signor Barnard. Che è successo? Signor Barnard, come è andata a finire? È andata a finire, amico mio, io non ho fatto niente. Quello là mi ha dato dello sterco di cane. Barnard, editorialista della Gabbia di Paragone. Noto ex editorialista, perché è stato sospeso, cacciato, non lo so, da Gianluigi Paragone. Sì, secondo me si è comportato un po' la testa di cazzo. No, ma il problema vero è quello che scrive Barnard, non sull'economia, ma su altre cose. Allora, Paolo Barnard è un giornalista / economista è una parola grossa. Parlando è il numero uno. Ah, lei condivide quello che dice dal punto di vista economico? Sì. Cioè lei pensa che ci sia una specie di economicidio fatto dalla Banca Centrale Europea e dalle istituzioni europee nei confronti del... Secondo me... No, ma perché è legittimo, non sto dicendo che... Secondo me forse ci salviamo solo uscendo dall'Europa e i tedeschi hanno paura che non usciamo dall'Europa. Diciamo non che non dice, solo quello, signor Barnard, non dice solo quello. Comunque le leggo, caro amico, quello che Barnard dice sulle donne ed è il vero motivo per cui è stato cacciato dalla gabbia, sospeso quello che è. Ripeto, io non ho nulla contro Barnard, adoro la gabbia di Paragone e sono, non dico amico, ma insomma conosco bene Paragone, lo stimo come conduttore, per cui non, il punto non è questo. Allora, scrive Barnard, musica maestro, per favore, musica maestro. Le donne al 99% sono una razza miserabile, quando va bene. Ricordo a tutti che i delatori delle cosiddette streghe medievali, le persone cioè che mandavano delle innocenti alla tortura o al rogo, erano al 90% donne guidate da gelosia o invidia o altro. Dunque, le donne al 99% sono una razza miserabile. Le donne sono al 99% esseri mediocri, solo capaci di creare miserie ai propri figli o al mondo. Purtroppo hanno quello che hanno fra le gambe. E ok, ma non fosse per quello e per la cultura di sinistra dei piddini cerebro mancanti, sapremmo come giustamente apostrofarle al 99%. Certo, alla fine poi scrive... Se si scrive che gli uomini sono al 99% dei porci disumani o troppo stupidi per esistere, nessuno dice nulla. Se lo dici delle donne, firmato e ratificato Paolo Barnard. E per il momento, poi non è escluso che lo farò, vi faccio... Non vi leggo altri tweet che il signor Barnard ha pubblicato a proposito di donne, apostrofandole come troie, anche suoi parenti, eh. Vabbè. Ha capito Filippo? Io non devo fare pace con nessuno perché non ho litigato con nessuno. Lui pensa che io abbia contribuito alla sua esclusione dalla gabbia, ma siamo a livello di mitomania, cioè siamo a livello di follia. Io non ho fatto nulla e non ho questo potere, per fortuna. Ha capito? L'ambulanza, ci vuole l'ambulanza qua. Ma forse una è poca. Francesco, provincia di Foggia. Buonasera. Dica. Senta, prima una curiosità, volevo sapere se era quello vero un'imitazione. No. Chi? Il presidente, l'ex presidente Formigoni, era quello vero o era l'imitazione? No, era vero. Sì. Era vero, quindi quello che ha detto proprio, nel senso, questi distinguo, chiarisco, spiego, cioè di tutto quello che poi viene in qualche modo, per carità, se fosse vero, perché adesso... Ma perché? Che cosa ha detto di così incredibile, secondo lei? No, di tutte le spese, le giustificazioni che dà, no? Nel senso che poi a un certo punto... Vabbè, sul pranzo da 243 euro con Feltri, Feltri non c'entra nulla ovviamente, lì la ospite di Formigoni, che gli frega, mica paga lui, la colazione con Feltri 243 euro, dice che erano in tutto 6 persone. Dunque 243 diviso 6 sono 40 euro e lui ha detto non è che posso dargli il panino come presidente della regione Lombardia, spendo 40 euro di catering, poi ognuno può pensare pagateveli voi eccetera, invece paga il contribuente. E devo dire la verità, quando Palazzo Chigi no, invita qualcuno, non è che paga Renzi, certo. Non è che paga Napolitano al coso, si chiamano spese di rappresentanza, no, spese. Uno può pensare che magari sono troppi pranzi istituzionali, può darsi che sia così. Francesco, poi? Ricordo Formigoni quando ci ha spiegato un po' le vacanze come le faceva, che poi alla fine, sai, uno paga in un modo o nell'altro. Beh, sono cose diverse però, eh. Lì c'è un processo in corso, è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere e corruzione. Ma se mai fosse vero, immagina che personaggio, forse io non voglio credere, perché sicuramente è una persona a modo, il signor Formigoni, quindi è una persona rispettata. Grazie. Sandro, provincia di Pisa. Sì, io so che questa mia telefonata non servirà assolutamente a niente, soprattutto davanti ai vostri occhi che fate proprio la parte del potere assoluto. Noi guardi, schiavi e servi del potere. Noi siamo schiavi e servi del potere, sì. Questionista di Parenzo, lascialo parlare sto pazzo. Allora, io dico una cosa, che lei Cruciani dovrebbe veramente chiedere scusa a tutte le donne, non solo d'Italia, ma del mondo, per la cosa che ha detto riguardo a quell'agenzia che spara quelle stronzate enormi di quella statistica che ha parlato prima di Formigoni. Anzi, volevo salutare il signor Formigoni e dirle che ha fatto un ottimo lavoro, complimenti, questa era una piccola postilla. Sì, beh, lasciamo perdere Sandro, non ho capito qual è il nostro rapporto col potere, forse non ha capito bene. Le donne d'Italia, perché anche se fosse una sola donna violentata, stuprata, picchiata, ma che c'entra? Ma io... anche solo una sola donna. Io ho detto che i dati dimostrano inequivocabilmente. La legge è urgente, è urgentissima. Ma quale urgente? Ma ci sono già le leggi, ci sono le leggi. Sei un provocatore inutile. Lasciatelo dire. Vabbè. Lasciatelo dire, queste cose qui che fai te le facevo 20 anni fa. Ma dove le facevi? Ma dove? Capito? Per le strade. Ma chi te sentiva? Ma chi ti sentiva? Scusami, con tutto rispetto. Ma chi ti sentiva? Mio nonno in carriola, chi ti sentiva? Ma chi ti conosce? Ma chi ti sentiva? Voi fate benissimo il vostro lavoro. Voi siete perfetti per il potere. Ma quale potere? Tu sei perfetto. Tu sei perfetto per te stesso. Tu che sei un. Tu sei un. Io sono manipolato. Manipolato consapevole. E invece tu sei manipolato. Ma voi siete consapevoli di niente. Sì. Voi non sapete niente. Invece tu sei contro il potere, no? Tu saresti contro il potere. No, io non sono contro il potere, no, assolutamente no. Però sei perché consapevole di essere manipolato. In qualsiasi momento. Sì. In qualsiasi momento mi schiaccia. Ma cerca di campare normalmente, di divertirti un po' invece di sparare cazzate. Ma cerca di stare tranquillo invece di sparare cazzate. Divertiti. Questa sera vai con hai una fidanzata? Hai una fidanzata? Ci sono altri uomini come me che combattono ogni giorno contro queste cose. Ma quelle queste cose contro hai una fidanzata? I comuni portano più violenza della violenza stessa. Chi portano? Chi porta violenza? I luoghi comuni che i luoghi comuni. Ma quali sarebbero i luoghi comuni? Spiegami. Ma quali sarebbero i luoghi comuni? Fenomeno, i luoghi comuni quali sarebbero? Vergognati, vergognati. Ma guarda che sei, ma guarda il luogo comune è il contrario. Parenzo che fa finta di essere contrario, fa ridere. Vabbè. Fa ridere fa finta, fa finta un torno. Ma questo è un poveraccio. Fa finta, caro. Al servizio fa del finta potere. Un sionista al servizio del potere già ti qualifica questa cosa qui, Sandro. Già il fatto che hai detto, già il fatto che hai detto sionista, sionista già ti qualifica, sionista servo del potere. Già ti qualifica per quello che sei, capito? Sandro, già ti qualifica perché sei un pazzo, un demente. Sono un pazzo, certo. Te sei dalla parte della ragione. Ma tenga le mani sul volante. Tenga le mani sul volante. Ti hai il potere di buttarmi anche giù in questo momento. No, io non ti butto giù perché. Ragazzi, guardatevi allo specchio la sera. Guardatevi allo specchio. Lui mi guarda allo specchio, guarda, ma non provo nessun ribrezzo, capito? È chiuso. Pubblicità. La zanzara è quell'odioso insetto. E mi raccomando, pregate, pregate, pregate, pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio. Prega per noi che siamo peccatori, caro Brosio. Prega per noi che siamo peccatori. Che ho rivisto a Quinta Colonna lunedì, tu dirai chi se ne frega, giustamente. Beh, abbastanza, sì. Però a un certo punto, quando c'era un gruppo di persone che dicevano basta tasse, basta tasse, la politica deve fare qualcosa, lui dice no, dovete pregare. Cioè, come pregare? Sì, te lo giuro. Cioè, dovete fronte... credere in Dio, disse. Cioè, di fronte alla gente incazzata. C'era questo diceva, lavoro, lavoro. Disperati, erano poverini, c'erano del tempo. Dice, allora, Brosio chiede la parola. Lunedì è avvenuta questa quinta colonna. E c'è lei, Brosio, che dice, no, bisogna avere fede in Dio e pregare. Questi erano incazzati, neanche come pregare. La pace sia con te. Beh, ho capito, sì, la pace sia con te. Però se uno è disperato, ha perso il lavoro e Brosio gli si para davanti, Brosio, e gli dice, ma forse dovresti pregare, questo lo manda a fare in culo. Sì, non dico niente, ma un bel vaffanculo ci può stare tutto, Ogni tanto, però, devo dire che i signori di Equitalia fanno delle cose corrette. Per esempio, hanno scoperto 500.000 euro nel conto di una prostituta colombiana in Umbria. Sai che sono fissato su questa cosa io, sì, e non mi avrai, non avrai il mio scalpo su questo, io insisterò fino alla morte. Allora, una prostituta colombiana umbra è stata scoperta, le hanno scoperto 500.000 euro nel suo conto, beata lei, no? Come ha fatto questi soldi è abbastanza evidente, abbastanza chiaro, con no? Il suo lavoro, con la sua professionalità. Assolutamente. Sai che cosa hanno fatto al fisco? Dicono, bene, le hanno dato una partita IVA, indovina come cosa? Come agente matrimoniale. Beh, è stupenda questa cosa qua. Semmai come agente che distrugge i matrimoni. Questo semmai è il contrario, questo è vero. No, perché è vero, ci sono anche quelli che invece sostengono che queste fuitine rafforzano il matrimonio. Diciamola chiaramente, molti sostengono che andare a mignotte salvi molti matrimoni. Lei la dice con la solita crudità. No, io lo dico come va detta la cosa, cioè come va detta, no? Che tu sei tra quelli che sostiene che andare con le lavoratrici del sesso salva i matrimoni. Però devo dire la verità che questa genialità dell'Agenzia delle Entrate, se la genialità è dell'Agenzia delle Entrate di non so dove, in provincia di Perugia, in provincia di Terni, non lo so, hanno scoperto 500.000 euro per farle pagare le tasse, le hanno dato una matricola, diciamo, una partita IVA come agenzia matrimoniale. Beh, siamo al top, Che non mi fa dormire la notte. Invece Don Luigi Pugliese, parroco della chiesa di San Matteo, borgo di Stella Ma, periferia di Giuliano, Napoli, sembra di stare a Radio Maria, dice tanto, il prefetto di Napoli e i commissari prefettizi che governano il comune di Giuliano mi sono molto vicini, se è necessario però possono anche inviare l'esercito, cioè vorrebbe mandare l'esercito contro le prostitute. Capito? Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo no, giuro. No, questo no, questo no, dai. Gino da Genova, dai, Gino, anzi Elena da Torino c'era prima, Elena. Elena? Sì? Mi dica. Buonasera, buonasera Cruciani. Guardi, io sono una ragazza di Montegrazie, del paese che è stato così denigrato da, dal signor Arrigoni. Sì. E quindi chiamo per esprimere innanzitutto tutta la mia rabbia e il mio sdegno. Ma lei conosce questo paese? Beh, io sono di questo paese, io vivo a Torino perché mi sono sposata con un ragazzo di Torino, ma sono nata, cresciuta e vissuta fino a 31 anni a Montegrazie. Ma lei sa di questa storia o no? Sì, certo, la so perfettamente. Ma esiste questo pedofilo o no? Ma guardi, assolutamente, se non c'è una sentenza che condanna una persona non si può etichettare nessuno. Ho capito, ma che cosa si sospetta? Paese si chiacchiera molto cosa si sospetta di questo maestro di musica? Ma guardi, lei si concentra su queste, su questa frase perché sicuramente ha fatto molto scalpore. Beh, la frase che ha detto il prete, mica l'ho detta io. Certo, certo, ha perfettamente ragione. Infatti siamo tutti indignati per quello che è stato ma detto. Ma di cosa è accusato? Se è accusato, perché non sappiamo guardi, niente. Io la storia nello specifico non la conosco. Allora... ma no, io conosco la storia che riguarda Montegrazie, nel senso che Montegrazie è stato diffamato a 360 gradi, non si è parlato solo di questa persona, di questo insegnante di musica. Che sì, lo so, però a noi non ci porta niente, non ci porta niente delle altre cose, i tossicodipendenti che ci sarebbero lì a Montegrazie. Io vorrei capire una cosa. Ma è tutto falso, capisci? Vabbè, d'accordo, ma al di là di questo. Questo ha generato una grande indignazione, certo. Capisco che credo. Non sia materia magari interessante per voi. Ma lei vorrebbe parlare con Don Arrigoni? Ma assolutamente no, non ho nulla da dire quello che lui ha detto. No, ma gli dica in faccia, noi adesso proviamo a chiamarlo. No, assolutamente, sono la persona meno indicata per fare vabbè, questo. Adesso lo chiamiamo noi, allora stia ad ascoltare un attimo, tanto non ci sentiamo. Ma lo chiami serenamente, ma non per parlare con me, il contraddittorio non mi interessa. No, io ma lei gli deve dire in faccia. Io ho un profondo rammarico per l'immagine che è stata data di una comunità come tante, una comunità di persone, come diceva il mio compaesano ieri, di persone che lavorano, di persone oneste. Ma sto pedofilo esiste o no? Ma guardi, io le ribadisco, io sono donna di legge, non potrei mai definire una persona come tale. Ma è accusato, ci sono dei sospetti, cosa è successo? È una vicenda di cui non voglio parlare perché. Vabbè, allora che ci chiama a fare però? Ci chiama a telefonare. No, ascolti, io sono di una scuola diversa, veramente, io non potrei mai parlare con superficialità. Un attimo. È il prete questo? Parlo io? Sarà ancora perpetua a mangiare, dai. Ma che perpetua? È ancora a Foggia. Ma a quest'ora il prete mangia. E vabbè, non è che non può rispondere al telefono. Poste Mobile. Servizio Poste Mobile. Di segreteria telefonica. Te l'ho detto, starà cenando. Dai, il prete usa Poste Mobile come cellulare. Vabbè, niente, così è una notazione. Cara Elena, se lei non ha nulla da dirci su questo presunto pedofilo, che ripeto, una cosa che non ho detto io, ma il prete della vostra comunità. Sì, ma è molto brutto quello che prete della vostra comunità. La lascio, la abbraccio fortissimo, capito? È stato detto della nostra comunità che è bellissima. Vabbè, è quello, non è che anche nelle comunità più belle ci stanno i pedofili, però. Va bene, grazie. Voglio riabilitare e ho profondo rispetto per tutte le persone, soprattutto quando non ci sono delle condanne che sanciscono determinati reati. Grazie, bravo. Gino da Genova, oddio, il cugino di Mollica. No, non ci spaventare. Il presunto cugino di Mollica. No, caro, le devi dire a questa Roma, parente, adesso? Sì, caro Gino. Sì, a Roma. Colui che odia gli agricoltori. Ti dico che mia mamma, la sorella, la nonna di Vincenzo Mollica, Noemi Baroni, era un agricoltore, hai capito? Coglione di Roma. Non ho capito, ma chi è sta gente che citi? I tuoi parenti? Ma chi se ne frega? Telefoni per citare dei tuoi parenti, della mamma, della nonna, ti sembra una roba normale? Però, ma io non lo so. Ma ti pare che uno chiama? Signor Cruciani, abbia pazienza, lo zittisca. Perché secondo te, caro Gino, a Cruciani interessa di tutta la tua famiglia? No, aspetta, stava dicendo una cosa. Gino da Genova, dica anche il suo cognome. Darà pallo. Vabbè, darà pallo, d'accordo. Mi dica il suo, Gino, dimmi il tuo cognome, dai. Gino Baroni. Allora, Gino Baroni è sostanzialmente la nonna e la mamma di Vincenzo Mollica. Sì. Ha sposato Mollica, che è un calabrese, e peraltro te ne vorrei dire tante. che te le vuole dire in privato se tu mi accetti lì a Milano. Io ma vieni a Milano quando vuoi, qual è il problema? Allora Gino, però vogliamo è di interesse pubblico. Stai, tu cosa, fai, aspetta, Gino, posso chiedere se è di interesse pubblico il fatto che il signor Gino è parente di Vincenzo Mollica? Io a te non te ne frega un cazzo, ma non me ne frega niente dei milioni di ascoltatori che ascoltano. A me me ne frega che io sono un uomo sincero, onesto, ho le mie origini da quel paese. Il papà di Vincenzo Mollica, non ho paura a dirlo, era sdraiato in un prato, in un campo, e mangiava il miglior salame che producono in quelle colline. Ma chi se ne frega, però, scusa. Quel ma bastardo adesso lì di Palermo, se ti va avessi tra le mani ti spacco, guarda. Ma scusami, scusami, io, Gino. Guarda, io non abbi sono rispetto, interessato abbi a rispetto. No, io non sono interessato a Vincenzo Mollica perché, vabbè, poverino, fai da lavoro. Dici uno e sono felice per lui. Cruciani, ascolta. Dimmi, Gino. Dimmi. Quel rospo brutto, schifoso di mio cugino, sì, che si degnasse di rispondere. Sarebbe Mollica, sarebbe. Oppure tu hai detto a quella signora che chiami il prete lì di quel paesino. Chiama mio cugino domani. Ma l'ho ancora chiamato una volta, mi ha detto che non esiste nessun Gino Baroni. Si vergogna, e anche se fosse tuo parente adesso, ora si vergogna. Lui ha detto, guarda, ascolta, lui ha detto che i parenti li ha negli Stati Uniti. È un coglione, perché lui è stato in Canada, che non sono Stati Uniti. Però scusami, io adesso, anche se uno, scusami, uno, tu dai del coglione a tuo cugino. Brutto, rospo, schifoso, ma quello che deve fare. No, schifoso no, ho detto rospo. E vabbè, uguale, brutto, rospo, hai detto. No, cioè, brutto, secondo te. No, non mi mettere in bocca parole. Tu fammi fare il filo diretto con lui, a vedere. Sì, allora, questo ma possiamo prepararlo, non ti preoccupare, 24. Gino. Ma perché la zanzara dovrebbe essere messa al servizio, ascolta, di Gino? Ascolta, dille a Parenzo di stare zitto, che non merita nulla. Non merita nulla. Scusa, ascolta, Gino. Beppe. Gino, ma sì, scusa. Crei un precedente. Adesso chiamerà un altro Franco da Forlì che dice che è parente di Marco Frittella, ad esempio, del TG1. Ma chi se ne frega? No, lascia perdere Frittella, che quella non lo conosce nessuno. Tu non sei neanche l'altro giorno. Ho portato una signora, una giornalista di Rai 2 di Roma, che è laggiù nell'Ambaradan lì della Rai là in quale? Via. Sì, lì dove c'è la statua del cavallo, ha detto che lo vede ogni tanto al bar. Le ho dato il mio numero di telefono, il mio bigliettino. Ma, capito, ma io sono un taxista, peraltro, hai capito? Pure. Beh, questo va bene. Allora, so, Gino, io ti spiego una cosa. Vuoi spiegare per non favore? Non ho bisogno di lui. Lo sai cosa mi dicono le persone? Mi hanno chiamato un sacco di persone. Mi dicono, probabilmente pensano che tu le chieda. No, io non ho bisogno di lui. Io lo copro di denari a quello scemo lì. In che perché senso lo copri? Sei molto più ricco di Mollica? Sì, sono più ricco di Mollica, sì. Sì, sei più ricco di Mollica. Ma perché lo vuoi incontrare? Perché ci vuoi parlare? Perché ho una figlia, mi è morta una figlia in un modo straordinariamente drammatico. E allora? Mia figlia Broni Valentina, l'ho curata lì e ho di meno. Ma allora che c'entra lui? C'entra che io vorrei, l'unica cosa in cui io contavo sul mio cugino, se mi dava una mano venire a Roma lì da quello che fa le scatole. Da quello che fa? Le scatole, i premi lì nella scatola. Come ah, diciamo? I pacchi, sì, da Bonolis. E allora? Se io vincessi qualche lira, insieme, la a nome di mia figlia, con l'aiuto di Vincenzo Mollica, se mi aiuta, e anche tuo... A che fare? Li dono al Gaslini, i soldi, li dono ai bambini. Ma non è che uno può essere raccomandato per vincere, devi vincere lì poi al gioco dei pacchi, no, Gino? Beh, sì. Per fortuna, se non ho fortuna, amen. No, però scusami Gino, adesso non è che poi tu puoi rompere i coglioni a Mollica. Io te l'ho detto, lo dico anch'io. Poi per partecipare ai pacchi, tutto sta ambaradamo per partecipare ai pacchi d'Enzina, dai. Capito? Ma quel coglione lì crede che non sia vero più. Un mio collega qui, peraltro, che adesso è qui presente, una sera ti ha mandato, come si chiamano, Mauri, un'email. Che, sì. L'hai visto un'email con la foto che ci siamo io? Mio cugino e due altri. Ma eravate piccoli, non si distingue nulla, dai, non si capisce niente. Ma allora l'hai vista la foto? Perché non mi hai richiamato? Ma poi Gino, non è di nessun interesse. Non è di nessun interesse questa cosa, hai capito? Non è di interesse a nessuno. Dille a Parenzo di tacere, quel coglione lì. Ha bisogno? Ha bisogno lei di un'ambulanza e di due infermieri immediatamente, di essere legato a una lettiga. L'ambulanza te la porto io a te, stupido. D'un coglione, ascolta, sono stupido io. Gino telefona in una radio nazionale perché dice di essere parente di Mollica, vuol partecipare al gioco dei pacchi e poi il coglione sono io, capito? Ti darei tanti calci nel culo a te. Ma dai, vai a raccogliere le margherite, su. Beppe, quando questo mio collega Beppe ti ha mandato, scusi signore. Vabbè, Gino, si scusa, anche questo rifiuta i clienti, ma lei come campa? Gino, adesso noi diamo la linea alla borsa, io è sarei una cosa purtroppo. Dobbiamo... Però il punto fondamentale è un altro, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Sì, però andiamo con qualcosa di più concreto, questo coso, questo come si chiama? Questo mollica, perché altrimenti sembra tutto finto. Ciao. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E noi ci inginocchiamo rispettosi davanti a lei, che era Amort. Credo di sì, padre. No, no, un altro esorcista. Ci inginocchiamo rispettosi. Sia lodato Gesù Cristo. Eccolo qua, Amort. Sempre sia lodato. Vabbè. Oh, Tommaso, provincia di Bologna, vai. Ecco, cado a fagiolo che siete blasfemi. Io volevo proprio criticare non una blasfemia, perché sarebbe troppo dire. E chi? Parenzo è tutt'altro che blasfemo. Però se poi chiama lo stupido di turno che gli dà del sionista, cioè lui sbatte davanti a tutti la sua religione, dice una marea di sciocchezze. Ma io guarda che sionista non lo considero. Ma tu non sai nemmeno quello di cui stai parlando quando parli di sionismo. No, non è che non so, ma appunto non lo sa chi glielo dice. Però io dico, nel momento in cui lui tutte le volte sbatte in faccia a tutti che... Ma veramente non sbatte in faccia a nessuno, anzi vorrebbe pure evitare di dirlo, sono io. Siete voi che ogni tanto insistete sul fatto che lui è ebreo. No, io no. E ogni tanto sono io che lo dico, perché si può giocare anche su queste cose, io gioco con tutto, capito? Questo non l'autorizza a dire minchiate sugli ebrei. No, io non le dico, infatti. Io non le dico. Allora? Io le dico solo che se ne parla, proprio perché lui alla fine tira fuori. Ma non è vero, comunque avanti, poi? Poi l'altra cosa, siccome all'inizio della trasmissione avete parlato di un deputato... Sì, adesso lo chiamiamo. Bene, a maggior ragione, se lo chiamate, io lancio solo una provocazione. Qual è? Ma anziché la legge del taglione, che è sempre quella occhio per occhio, dente per dente, il populismo dilagante, ma li mandassimo veramente a spaccare il strato, a rattoppare le strade. Vabbè, questa è la vecchia cosa, cioè lavori forzati invece di cosa? Non forzati, utili, perché se lei gira per strada, piove a Roma e la gente cade nelle voragini, spacca i semiassi, i tassisti di prima si lamentano, qualsiasi cosa sia utile, la facessero. Ma li manteniamo stipati come sardine dentro dei loculi, per forza li cacciamo fuori, è inumano. Facciamogli fare qualcosa di utile, costruiamo delle carceri con i carcerati. Ma quello siamo d'accordo, costruire le carceri, figuriamoci. Solo che un ministro che le voleva fare queste cose ce l'avevamo, perché il signor Gratteri, che era stato portato fin dentro il Quirinale come nuovo ministro della giustizia, diceva no all'amnistia e all'indulto, sì alla costruzione delle carceri, amici miei. Poi c'era anche la depenalizzazione di alcuni reati, quello è un altro discorso. Infatti io Cruciani... Va bene, grazie Tommaso. Francesco da Bergamo. Buonasera. Innanzitutto io volevo dirvi una cosa, grazie, e non faccio il paracuro perché a me parlate schietti, poi io non sono d'accordo con voi delle volte, sono d'accordo, ma finalmente uno torna a casa al lavoro la sera con due palle così, almeno vi sente e si rilassa, punto. Seconda cosa, ricordo anch'io volevo fare un incipit sul discorso del deputato del PD. Un attimo, lo chiamiamo, un attimo. Il nostro amico Tav, Protav. Però mi sa che... Pronto? Stefano? Eccolo. Eccoci. Sì. A Zanzara, ciao. Ciao. Allora, hai scatenato un casino. Quando combatti l'ipocrisia. Beh, però... Ti è scappata, dai. Scusa, tu sei stato favorevole, sei stato sempre favorevole alla pena di morte in alcuni casi? Guarda, io non ho mica detto che sono favorevole alla pena di morte. Beh, ho espresso un pensiero e un sentimento su un fatto specifico. Sì, d'accordo, però dire io per gente così vorrei la pena di morte significa essere favorevoli in alcuni casi alla pena di morte, altrimenti che lo dici a fare così? Come sentimento, ho espresso un sentimento, non ho mica scritto che voglio presentare un disegno di legge per introdurre la pena di morte in Italia. Ma coi cadaveri caldi ti sei messo a titillare i più bassi istinti della gente. Cadaveri caldi, guarda, purtroppo, sai qual è, sai però, scusami. Dai, questo scusami. È un paese bello singolare, cioè tutti i giorni sui giornali donne uccise, bambini uccisi, appunto. Una vergogna, uno schifo di qua e di là. E poi quando uno esprime un pensiero, un'opinione, che naturalmente rimane la mia opinione, come sempre faccio, di cui rispondo, spariscono le vittime, e diventa il principio. Io li invidio, quelli che riescono a rimanere fermi, freddi, di fronte a un bambino sgozzato da uno che ti dice che, no, che ci è venuto 20 birre e che l'ha ammazzato perché ha cercato di violentare la madre, e che quel bambino poteva essere un testimone. No, oh, ma questa è una cosa terrificante, orribile, ma nessuno di noi resta, però, mi dispiace. Però tu il sentimento che mi è emerso di fronte a questa notizia, accoppiata a un'altra che mi aveva molto colpito, ma avevo taciuto, del bambino bruciato nella macchina insieme ai genitori, sì, no? mi ha fatto dire ci vorrebbe la pena di morte. Ma poi, tu sei un legislatore, non sei un cittadino qualunque, tu sei un politico. No, questo sei ho capito, però siccome sei anche un senatore della Repubblica, sei un legislatore, uno che fa le leggi. In più della sinistra italiana, del partito. Infatti, mica ho presentato un disegno di legge. No, io però l'hai scritto. Sono un uomo. Io non ho capito una cosa. Con le proprie emozioni, i propri sentimenti. Cioè, se questo tizio qua fosse mandato, cioè quello che ha ammazzato la donna e il suo figlio, fosse mandato, che so, sulla sedia elettrica, la cosa non ti scuoterebbe per nulla? No, sinceramente no. No. Cioè, sinceramente no. Cioè, non sarei a raccogliere firme per sospendere la sentenza, se me lo chiedi, sì. Come dire, il mio sentimento è questo. Anche negli Stati Uniti stanno abolendo la pena di morte. La cosa più brutta che ci possa essere al mondo è quello di ammazzare un bambino. Ma questo certo, però questo è evidente, scusa. Cioè, tu dici se ci fosse qualcuno che introduce per certi reati, adesso parliamo di una cosa concreta, al di là dei sentimenti, tu hai detto se ci fosse la pena di morte per questo tizio non raccoglierei le firme per sospendere l'esecuzione. Se invece qualcuno proponesse un disegno di legge che in alcuni casi estremi che riguardano i minori, eccetera, eccetera, ci fosse la pena di morte, la firmeresti questo disegno di legge o no? Se uso la razionalità del politico probabilmente non la firmerei. Però questa è una contraddizione forte. È la contraddizione tra i sentimenti e l'agire politico. Lo so, scusami, Cruciani, scusami Parenzo. Inutile, io sono contento del dibattito, lo continuo su Facebook anche tutta la notte, risponderò a tutti. Ma quanti sono favorevoli? Dici fino adesso quanti sono favorevoli? Una percentuale? No, non li ho contati. No, una percentuale. La categoria è divisa in due. No, ti posso dire che sul mio post ci sono circa 200 mi piace e 300 commenti, ma non vuol dire niente. No. Non vuol dire niente. Perché poi queste cose ma per sono alcuni reati divise. Va introdotta la pena di morte per certi reati, secondo te? Dimmi la verità, come la pensi su certi reati orribili che riguardano i minori? Da legislatore ti dico di no, e infatti non ho parlato da legislatore. Da padre ti posso dire che se dovesse capitarmi, spero che non mi capiterà mai, che mio figlio venisse ucciso in modo, non sto parlando di quello che investe in macchina, ma in modo barbaro e becero, sì. Va bene? Probabilmente cercherei di farmi giustizia da solo. Cioè, se tuo figlio fosse ucciso in una rapina in casa, come succede spesso al nord, ogni tanto, spesso, cioè, come succede qualche volta. Spero che il rapinatore che fa una cosa di quel tipo ammazzi anche me, perché sennò lo cerco fino in capo al mondo. Cioè, speri anche che lo prenda prima la polizia, magari. È meglio che lo prenda prima la polizia e lo tenga ben chiuso. Grazie, Stefano. Dopodiché? No, dopodiché sai cosa che la cosa mi colpisce? Mi colpiscono quelli che fanno la disquisizione esclusivamente sul tema della pena di morte e dimenticano le vittime. Io questa è una cosa che trovo. Ma no, ma nessuno dimentica le vittime. Io vorrei che stesse in galera a lungo, perché poi attraverso perdoni e indulti, eccetera, eccetera. Cruciani, ascoltami. Vogliamo risentirci tra qualche tempo, quando magari uno di questi, ce ne sono tanti purtroppo di delitti di bambini, sì, no? Viene giudicato infermo di mente, oppure dopo 3-4 anni di carcere viene messo fuori. Ma non è che sarebbe viene giudicato infermo di mente, no, ma sarebbe la prima volta. Su questo ha ragione Esposito, perché la realtà sarebbe la prima volta, e poi tutti i giornali ad indignarsi per questo, sarebbe la prima volta in questo paese? Ma la realtà è che se ci fosse una certezza della pena, allora, uno non penserebbe le cose che pensa, pensa Esposito. Guarda, ma neanche Aspetta, nemmeno? a Radio Padania. Dico, ma che c'entra nemmeno a Radio Padania? Dai, su. Io sono contrario alla pena di morte, e secondo me Esposito ha aperto, cioè si è creato anche dei casini all'interno del partito. C'è gente che l'ha chiamata oggi Esposito. Ma il senatore Esposito del Partito Democratico, no, mi ha chiamato Zanda per chiedermi qual era la ragione per la quale avevo scritto quella cosa, e gliel'ho spiegata. Il capogruppo. Abolite l'istituto delle perizie, allora. Abolite l'istituto delle perizie, o si crede che in fase processuale vengono fatte delle perizie da esperti, cioè da terzi, da medici che valutano lo stato di salute del criminale. Se lo valutano incapace di intendere di volere, lo dice la legge, lo dice il perito. O cambiate il sistema, allora andiamo, oppure accettate la legge com'è. Scusa, questo questa, ma Parenzo, la tua è un'opinione assolutamente, ma non è un'opinione, è un fatto di diritto, non è un'opinione. Guarda, tutto giusto, e ti credo, tutto che giusto. Io continuo a pensare ad una persona che cerca di violentare una donna, ci riesce, l'ammazza, vede, c'ha un bambino di 3 anni lì davanti che probabilmente sta piangendo, e gli ficca delle forbici in gola. Sarà infermo di mente? Boh, vedi tu, sarà infermo di mente. Ma se deve ragionare con la pancia, magari per in forza, giro? Ma... No, io abbi pazienza. Per delitti così efferati pretenderei almeno che questa persona rimanesse in galera e che non ci fossero periti e quant'altro per giudicare e trovare un escamotage. Scusami, ma penso che questo sarebbe il minimo. Ma io non è che difendo i criminali, se no sembra che... Grazie, no, Stefano. Ma lo so bene che non li difendi. Lo so bene che non li difendi, però tu ne fai una questione di pensiero. Ma Zanda, Zanda che ti ha detto? Di quei bambini, abbi pazienza. Zanda che ti ha detto? Zanda che ti ha detto? No, Zanda mi ha detto, guarda, ovviamente io sono d'accordo con te che il delitto è ferrato, ma... Poi ha capito che io non è che abbia chieda l'introduzione della pena di morte con un atto legislativo. Dice, io naturalmente dirò che per quanto è ferrato il delitto, la penso diversamente da te, e ci mancherebbe ancora che non ci fosse la possibilità di pensarla diversamente. D'altra parte, come ti ho detto, non è che io abbia presentato un disegno di legge. No, ho capito. No, però te lo dico sinceramente, io prima che essere senatore sono un uomo, sono un padre. Ho capito, però non importa, mi prendo, ma guarda, io mi assumo sempre le mie responsabilità. No, ma questo lo so, sempre. Questo lo so, perché arriva, però secondo me coerentemente uno dovrebbe dire, benissimo, per delitti efferati come quelli su bambini di tot anni, mettiamola come la mettiamo, io non posso escludere il fatto di essere favorevole alla pena di morte. Cioè la coerenza dovrebbe essere questa, perché uno non può dire da senatore è un'emozione, cioè ho provato un'emozione, allora sono favorevole alla pena di morte. Da uomo, ma ho capito, io sono uomo, ma che cazzo, non è che uno va in Senato ed è un robot, o va alla Camera ed è un robot. Vabbè, d'accordo, per carità. Pazienza. Dopodiché io rispetto la critica, rispetto la tua opinione sulla eventuale non coerenza, ma difendo l'idea che anche chi mi segue come politico di me possa sapere anche quando che tipo di emozioni ho, e possono non piacergli. Sono sicuro che invece tra tutti quei pareri che ti sono arrivati, che leggerai stanotte, molti sono favorevoli. Grazie a Stefano Esposito. Grazie a voi. Ciao. Che ci mette sempre la faccia. Bravo. Francesco da Bergamo voleva continuare? No, niente, ha finito, ha detto tutto lui. No, l'unica cosa che volevo dire è che diciamo che è tutto corretto, sono d'accordo su tutto, sono anche un padre, quindi sono perfettamente d'accordo che sull'impulso del momento, sul caldo del momento, è la prima cosa che ti viene in mente, quella di dire, beh, ecco, lui andrebbe ucciso, punto. È ovvio che però, essendo un politico, si cade nel dubbio che l'abbia fatto per cavalcare un'onda, poi sentendo... Ma no, non mi sembra, guarda, la cosa che ho sentito prima non mi dà l'idea di uno che ha scritto quella cosa lì per beccare qualche voto, dai. Sto ascoltandolo adesso, oggettivamente... Vabbè. Grazie Francesco. Andrea, provincia di Milano. Andrea. Sì, buonasera, ciao. Dica. Mi ricollego al discorso, all'intervista dell'altra sera con Gianni Amedio, al presunto outing che ha fatto. Poi, okay, visto che io sono favorevolissimo ovviamente agli outing, a tutto quanto, ma perché Parenzo non fa outing finalmente? Ma perché è eterosessuale? Perché dovrebbe fare outing? Ma non è etero, ma non mi prendete in giro. Chiedi in giro a sorelle. Ma lontano un chilometro che è finocchissimo. Ma lei ha sorelle? Lei ha sorelle? Ma non fare la battuta a becera sulle sorelle adesso pure tu, No, perché come fai a sbagliare? Su, volevi fare la battuta a becera, presentami tua sorella, dai, su, una cosa vergognosa. Ho detto chiedi in giro. Tu sei la parte attiva della coppia, Cruciani. Sì, guarda, io mi sono inchiappettato più volte, Parenzo. Anzi, la settimana prossima, quando andremo a Strasburgo, giocate, probabilmente dormiremo insieme, così facciamo un bel inchiappamento. Giocate a incularella. Giocate. A incularella, quella che si considera l'incularella, la famosa incularella. Parenzo, dai, anzi, facciamo anche le foto dopo delle nostre incularelle e le pubblichiamo, no, magari. Ma perché tu che... Ma perché no, ma lo sto prendendo in giro. Nell'abisso, tu subito. Ma lo sto prendendo in giro, dai, Parenzo ha il culo chiacchierato a Padova, eh? Ma chi lo dice questo qua, scusa? Andrea. Ah, una volta, sì, una volta sì. Lo disse. Vabbè, dai, Steve da Modena, Steve o Steve, Steve, ma che cazzo ne so, Steve, dai. Oh, ascolta, ma quando è che ti trovi un lavoro? Io? Quando è che trova chi a te un lavoro? No, secondo me, te, come tutti i romani, non hai una gran voglia di lavorare. Ma guarda, io sono romano, abito a Milano, abbassa quella, quella radio maledetta, altrimenti vengo lì e te la sfascio col piccone, Steve. Chiudi quella radio. No, maledetta no, perché ci serve. Chiudila! Aspetta un attimo. Aspetta un paio di palle, dai, su. Non mi fare esagerare, che poi quando che esagero... Che clima! Dai, poi siamo alla conclusione di questa trasmissione. Alla fine, capisci? Oh. Si è iniziato allora, con il prete, allora, si finisce, capito? Non ho capito. Ma lì a Roma? No, io, a parte che io sono a Milano, non sono a Roma. A me non mi interessa, cioè, ti volevo solo dire che Dimmi. Tu mi sei simpatico per quell'accento da romano medio che hai. Vabbè, ho accento da romano medio che peraltro non ho, che beh, vabbè, qualche volta accento. Lì a Roma dove? Te. Siamo a Milano, comunque lì a vabbè, Roma. La gente come te a Roma. La gente come me. Vive di cinema, sì, di vive cinema. Di teatro, sì, vive di cazzate. Certo. Cioè, la gente lì a Roma che sono dei soldi e non lavoro nessuno, cioè, capito? Capito il discorso? Ma lei quanto tempo ci ha pensato per dire questa per fare questa riflessione? Questa genialità, guardi che commenta la grande bellezza. Ma voi avete queste cazzate qua, voi pensate che vincendo l'Oscar, ecco, voi vincete la vincendo romane, ma vincendo che la gente e agli operai non frega un cazzo nessuno di questa roba qua. Ma guardi che io sono in testa che non si vive di cinema, di teatro. Ma lei ha ragione, guardi, mi verrebbe, hanno sbagliato la dose, mi verrebbe da dare ragione perché io me ne frego delle stesse cose che dice lei. No, tu vai fiero di queste puttanate romane. Io voi vivete di politica, di cinema, di teatro e di musica. Voi con queste cose qua ci avete rotto i coglioni. Io vi odio, voi romani. Io vi odio tutti quanti. Brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali assanti. Io vi odio, voi romani, tutti quanti. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Steve! Ha abbassato questo coglione. Se n'è andato. Marco da Padova. Ciao, ciao. Siete grandiosi. Vai, dimmi. Però il vostro pubblico è veramente fuori di testa. Non beh, anche tu allora, insomma. Beh, sì, hai ragione. E allora, vai avanti, va veloce che dobbiamo chiudere. Allora, vai. Praticamente, Parenzo, quando eravamo a scuola... Tu che scuola hai fatto però, scusa, perché io ho fatto il liceo classico. Ogni volta qualcuno dice eravamo a scuola, quella sì, ha fatto esatto. La scuola di là. L'altro giorno ha chiamato uno che ha detto di essere stato... Ho fatto il titolino, tu pensa che io ero a sinistra della sinistra di Parenzo... E lui a scuola era veramente pallosissimo quando faceva i suoi convinzi politici. Invece adesso, cazzo, è quasi meglio di Crotta. Ha fatto ma noi eravamo insieme al liceo. Non eravamo in classe assieme, io sono più giovane di te. E allora? E io, secondo me una volta siamo quasi finiti alle mani anche in una manifestazione. Vabbè, adesso non rimaghiamo queste cose. Perché... Tipo la piazza è mia! Tipo perché tu eri vicino agli amici della aspetta un attimo, bianche. Fammi sentire Alessandro da Milano. Marco, ci risentiamo un'altra volta e conserviamo il suo numero. Alessandro, veloce, vai. Pronto, sono Lupo Alberto. Ciao Crociani, sei un grande. Ciao, grandissimo, grandissimo. Chi è il figlio di Alessandro questo qua? Sì, sono io. Spaccate, siete grandi. Ma chi è? Ti ascolto ogni sera. Ma quanti anni hai? 13. Come ti chiami? Alberto. Passami tuo padre. Sì. Comunque anche se Crociani, cioè Parenzo c'ha il culo chiacchierato, è un grande anche lui. Ciao, okay. Vi passo mio padre. Ma il bambino, ciao, ma usano i bambini in questo modo, ma ti rendi conto? Questo Alessandro, di Siracusa, di Renzi. Alessandro, sei un grandissimo, ti chiamiamo domani, adesso non possiamo. Ti chiamo domani, te lo prometto, ti chiamo domani. Tuo figlio è il numero uno. Sentite il professor Ruggero sulle donne e noi ci sentiamo domani 18:30. Ruggero forever, anzi no, Ruggero sottoterra dovrebbe andare. Appunto. Io penso che una persona incinta deve pensare al suo figlio e alla sua famiglia. Questo è il punto fondamentale. E non mi pare di dire una roba esotica. Anzi, penso che la cosa logica è che quello sia il suo ruolo e che una donna non debba fare il ministro, punto. No, non deve avere ruoli di comando.